È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo. Poi, malgrado la porta, è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara, una specie assai rara, assai rara, assai rara. Di che tipo non so, portava una gonnella, era abbastanza bella, mi punse sulla lingua e non ti scrissi più. Caro David, eccoci qui. Eccolo. Come stai? Come stai? Bene, si lotta nella capitale. Oh, voglio fare un applauso. Voglio fare un applauso a Rocco Buttiglione. Iniziamo subito così. L'unico in queste ore ad avere il coraggio di dire che la questione del nucleare, la decisione è una decisione sbagliata. Adesso non lo so perché lo dica, non so cosa ci sia dietro, me ne frego. Però è uno che dice una decisione sbagliata. A me le posizioni impopolari mi piacciono. Buttiglione. Questa decisione del governo è sbagliata. L'Italia ha un grave deficit energetico. Tutte le industrie cosiddette energivore stanno andando via dall'Italia, perdendo migliaia e migliaia di posti di lavoro. Finalmente ne ho trovato uno in questo silenzio generale su una decisione del governo che è nella direzione di non far andare le persone a votare al referendum, un'operazione politica anche legittima, e poi anche per andare incontro a questa vague nell'opinione pubblica italiana, questa ondata antinucleare. Va bene, altro argomento, voglio farti sentire Giancarlo Lehner, deputato del PDL. E sulla questione dei manifesti, naturalmente, a Radio Radicale dice: ci sono dei magistrati, questo è storicamente accertato, fiancheggiatori delle brigate rosse. Mamma mia. Lui parla da un punto di vista però storico, in ogni caso in queste ore, come sai, Lehner. Vorrei aggiungere qualcosa però anche sul manifesto. Io naturalmente non condivido il manifesto, ma non lo condivido perché è sbagliato. Avrebbe dovuto dire via i comunisti dalle procure. Poi che ci siano stati fiancheggiamenti, questo è un fatto storico. Vorrei citare alcuni fiancheggiamenti alle BR, no? Certo. Ero stabilmente sicuro. Poi a un certo punto fa addirittura il nome di Francesco Greco, ma approfondiremo più avanti. Vabbè, arriverà la querela. Questo a noi non ci interessa, naturalmente. No, figuriamoci. C'è anche il nostro amico golpista, a Sorrosa, il golpista democratico a Sorrosa, che rilascia un'intervista. Un'intervista a Luca Telese, surreale, sì, in cui se la prende con quelli che l'hanno criticato, dicendo che dov'è qua? Sì, un lavoro da sicari. Ed è straordinario Vincino che lo descrive come Alberto a Sorrosa dei Venti, evocando il golpista Amos Spiazzi e la sua Rosa dei Venti. Geniale, devo dire. Bellissimo. Poi ti presento subito un ospite che è qui e ci sta aspettando. Dell'acqua gasata, per cortesia, subito. Vabbè, ma ho capito, che c'entra l'acqua gasata adesso? No, ho ordinato subito, hai visto come sono stato? Vabbè, subito. Vabbè. Ferrara, Giuliano Ferrara, giusto appunto. Il presidente non può ignorare i magistrati in piazza e a Sorrosa. È un rimprovero per quello che ha detto su Lassini, nostro amico Lassini. Ferrara. I magistrati fanno comizi in piazza per attaccare preventivamente leggi di riforma della Costituzione che sono portate alle Camere da una maggioranza regolarmente eletta da tutti gli italiani. Un esponente della sinistra intellettuale e politica, l'ex deputato Alberto a Sorrosa, chiede che con un'azione di forza dall'alto vengano congelate le Camere con l'aiuto di polizia e carabinieri, il profilo di un golpe. Tutto questo non può essere estraneo alla sua predicazione, Presidente. È un invito a Napolitano a non parlare solamente di Rasini, ma a intervenire anche quando i magistrati, ricordiamo che il Presidente della Repubblica è anche il capo del CSM, intervenire anche in altre occasioni. Ne parleremo, io sono d'accordo con Ferrara, naturalmente. Caro Parenzo. È un po' diverso, comunque. Comunque ne parleremo. Mieli è convinto che Berlusconi non abbia ancora comprato la casa. Siccome è stato un po' sbugiardato dai documenti, insiste: la storia della casa è ferma. Berlusconi poi, dopo quell'intervento che ho fatto a Ballarò, ha detto che la casa non l'aveva comprato perché non era acquistabile. È demaniale, esatto. Invece il giorno dopo ancora è diventata acquistabile. E allora, grazie a un intervento dei suoi, ha firmato un rogito e ha pagato anche una caparra, o comunque ha pagato una cifra iniziale per quella casa. Ma adesso è passato un mese e quella casa è ancora del legittimo proprietario, quindi non è che sia una vicenda su cui ruota la politica del paese, però anch'io lo seguo con interesse e con divertimento. Beh, ho capito, però non ci vuole sta, Mieli, Parenzo, la storia è ferma, un acquisto della casa ha i suoi tempi, che vuol dire? Se uno presenta i documenti, adesso voglio dire, per carità, Berlusconi intanto fa promesse che non esaudisce. Però insomma, qui siamo nel campo dei rogiti, delle procedure normali, ma Mieli non si arrende perché evidentemente è stato un po' sbugiardato. Perché conosce i proprietari della casa. Ma sì, ho capito, non lo so. Non so com'è, ma io tra Berlusconi e Mieli mi fido un po' di più di Mieli. E chi te l'ha detto? Perché? È una cosa fideistica questa qua. Onorevole Santanchè, dica qualcosa a Parenzo. Si fida più di Mieli che di Berlusconi. Vabbè, è una cosa fideistica. Buonasera. Buonasera alla Zanzara. Allora, va bene Parenzo a fidarsi di Mieli, perché è quello che aveva dato la linea anche di Parenzo, con quel fondo che aveva scritto anni fa Corriere della Sera, pochi giorni dal voto, dicendo di votare Prodi. Quello che avviene in tutti i giornali americani, Santanchè. Quello che avviene in tutti i giornali americani, in cui i direttori si schierano, no problem, trasparenza. Vabbè, comunque sono di Cuneo, quindi un po' distante l'America. Io sono un animale molto domestico. No, lasciamo stare gli animali, onorevole. È come se avesse detto l'onorevole Santanchè: ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Ti ricordi la cosa? Io, però in realtà lei è di Cuneo sul serio. Allora, vogliamo penso dire che sono italiana. Quello che fa l'America, cioè, non è che la guardo così tanto. Mi piace. Tutte le democrazie occidentali. Le cose italiane. Parenzo vola troppo in alto. Io, pur avendo i tacchi, volo bassissimo, raso terra. Senta, ma mi può dire una cosa di più su questa vicenda di Lassini? Cioè, secondo lei è giusto che rimanga in lista? Pare che non si possa togliere. La Moratti dice di sì. C'è una disputa giuridica. Fosse per lei, rimarrebbe in lista o no? Secondo me dovrebbe rimanere, perché io credo molto nei cittadini milanesi, soprattutto per la libertà e la democrazia. Come diceva Mourinho, titoli zero. Zero titoli, veramente, era così, la correggo. Sì, grazie della correzione. Sempre di Cuneo. Tante, no, giusto. Ma voglio dire, voti zero voti, cioè nel senso che devono scegliere i cittadini milanesi. Io vedo, ho condannato senza se, senza ma, quei manifesti, perché lo trovo sbagliato e irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime delle Brigate Rosse. Anche dei magistrati, però, o no? Non avrei mai fatto quei manifesti. Detto questo, sono dalla parte di Lassini, perché è stato tenuto 50 giorni in carcere. Io trovo che tenere un innocente in galera non è cosa peggiore. Però non c'entra niente con questa storia, il fatto che sia c'entra molto. Mi sembra umanamente che possa avercela con i magistrati, che possa avercela con coloro che gli hanno rovinato la vita e gli hanno fatto aspettare 5 anni per avere poi la sentenza per non avere commesso il fatto. Ma che lui la poi ce la possa avere con i magistrati è assolutamente legittimo. Che uno debba scrivere le BR fuori via dalle procure, no, però. Sono due cose molto diverse. Sì, per seguire il suo ragionamento, invece vedere dei cartelli o vedere delle vignette dove ci sono delle pistole puntate a Silvio Berlusconi con scritto sparati, o vedere vignette sull'unità, o sentire Azor Rosa che dice un golpe, o ancora peggio sentire Giuseppe Cascini segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che ha detto che il Parlamento non è degno, non è eticamente giusto, moralmente giusto che possa legiferare in materia di giustizia, mi indigna un po' di però più. Mi scusi, onorevole Santacchè, qui il problema è nato per il fatto che non un semplice cittadino, bensì un candidato alle elezioni, altrimenti non se ne sarebbe parlato, ha messo quei manifesti. Dal momento in cui un manifestante per strada o chiunque con la pistola indichi Berlusconi e dica Berlusconi boia o altre cose, sono due cose un po' diverse. Io vorrei capire da lei se è napolitano o sbagliato. No, scusi, non è un po' diverso. Lei è sfuggita proprio forse una bella vignetta che è comparsa sull'Unità, dove rappresentava un uomo con la pistola che puntava appunto virtualmente contro Renato Brunetta, o le sono sfuggiti i manifesti stile Far West del Partito Democratico contro Maurizio Gasparri, o quelli della FIOM, manifesti contro i moderati, o gli altri manifesti. E in questo caso cosa bisognerebbe fare secondo lei? Libertà d'opinione, allora, è libertà d'opinione anche questo, oppure bisognerebbe agire in sede penale trovando qualche reato che non so se ci sia? Non ho capito bene. Sono un po' stufa dei due pesi e delle due misure, perché questo è profondamente sbagliato. Io ritengo che i problemi siano altri. Lassini ha fatto bene a chiedere scusa. Ma lei lo voterebbe? Scusi? Lei lo voterebbe? Ma io lo voterei. Ah, lei lo voterebbe? Io lo anche voterei. Cioè lo voterà, insomma. Non ho detto lo voterò, perché non ho ancora deciso. Ma però lo voterebbe. Tempo. Però io lo voterei perché sono contro l'ingiustizia, perché sono stufa di questi magistrati, di questi pubblici ministeri, di queste procure. Sì. Sono, fanno militanza politica. Che vanno in piazza a fare i comizi, che dicono che il Parlamento non può legiferare, che hanno un accanimento giudiziario. Ma secondo lei prenderà tanti voti? Il presidente Berlusconi. Ok, lei secondo lei prenderà tanti voti, onorevole Santacchè? Se rimarrà in lista, secondo me prenderà tantissime preferenze. Le voglio dire di e lei se lo augura, mi sembra di capire, o no? Io le dico di più, che siccome qua non parliamo di un listino bloccato, qua non parliamo di nomine, perché le elezioni per il consiglio comunale sono elezioni con la preferenza. No, appunto. Vuol dire che i cittadini milanesi devono scrivere Lassini sulla scheda. E lei invita i milanesi a scrivere Lassini? No, io non sto invitando. No, magari sì. Spiegando che questa è democrazia, che questa è libertà, che posso dire con forza che certe procure, in prima quella di Milano e certi PM, mi hanno rotto le scatole. Non sono degli esseri superiori. Voglio sapere chi paga. Lassini sta pagando con tutto sto cazzo. Secondo lei prenderà... Chi ha pagato con i soldi delle proprie tasche quando l'hanno tenuto 50 giorni in galera? Chi ha tirato fuori i soldi per aver rovinato la vita di un uomo e di una famiglia? Ho capito, ma lei però dice di essere contrario al manifesto. Lei dice anche di essere contrario al manifesto. Qui si sta parlando non della storia di Lassini, ma del manifesto BR via dalle procure. Sono due cose un po' diverse. No, cioè... no, non faccia il fazioso. Fazioso? Sono due cose diverse. È la stessa cosa. Parliamo di un uomo che ha subito un'ingiustizia. Ho capito, ma allora perché la Moratti ha insistito per farlo fuori? Ha sbagliato. Ha sbagliato la Moratti. Parlando con Daniela Santacchè. No, ma secondo lei la Moratti, siccome ha insistito molto, ha sbagliato o no a insistere molto? Io trovo che è sempre sbagliato ragionare di persone e non di principi. Ritengo che è sempre sbagliato fare i diktat, è sbagliato fare i ricatti, è sbagliato muoversi contro qualcuno. Dunque, la Moratti ha ricattato a favore di qualcuno. E chi ha ricattato la Moratti? Berlusconi? Da quello che lo sto dicendo, le dico, lei vuol sempre fare nomi e cognomi. No, ho capito. Scusi, dappertutto, sui giornali, scusi, onorevole Santacchè, sui giornali c'è scritto, ma mi sembra confermato poi dai fatti, che il candidato, l'attuale sindaco di Milano, è candidato anche per la prossima legislatura a Milano, ha detto a Berlusconi o me o lui, altrimenti addirittura io non ho bisogno di fare il sindaco. Il giornale l'ha scritto, io questo è il giornale. Allora ha sbagliato, me o lui, ha sbagliato. Guardi, io non ho neanche bisogno di fare il sottosegretario, ma che me ne importa, lo faccio per passione. Bella responsabilità dire una frase del genere. Allora cosa voleva dire? Che la Moratti se ne fregava altamente, consegnava questa città alla sinistra? Bell'esempio. A me non piacciono gli ultimatum, non mi piacciono i ricatti, non mi piacciono dire o me o lui. Mi piacciono invece le battaglie che faccio con forza. Sì. Ma lei sarebbe tentato dopo questa cosa di non votare la Moratti, dopo quello che ha fatto, dopo questo ricatto a Berlusconi? Scusi? Lei sarebbe tentata di non votare la Moratti, siccome credo che lei voti a Milano. Siccome io voto Berlusconi e siccome Milano la dobbiamo vincere al primo turno, perché sì, Milano è importante, mi batterò con tutta la mia forza, sì, perché Milano, la sua amministrazione, ho capito, il comune di Milano rimanga in mano a PDL. Però io farò da persona responsabile di questo partito come membro del governo, per cui guardi, anche stasera c'è una cena a casa mia con i 31 sì, candidati della zona 1 di Milano, sono di quelle che lavoro, pochi ricatti. Allora, c'è anche la Sini? Viene anche la Sini a cena? No, che c'entra la Sini? Traffico. Parenzo è sempre il solito, viene la Sini, ma non è... cena, i 31 candidati della zona 1, dai, candidati su, di zona, Parenzo... Di zona... Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Siamo qui, Parenzo, di zona, candidati di zona, Lassini è candidata al consiglio comunale. Insomma. Ma scusi, ma lei tra me e Parenzo chi sceglie? Ma scusi, signora, state che, c'è bisogno di dirlo. Ma lo dica anche lei forte e chiaro. Lo dico forte e chiaro. Faccio una dichiarazione. A proposito di dichiarazioni, tutta la vita lei, signora Santa Che. Allora, però, voglio dire una cosa. Se non altro perché è una signora, no? Non solo perché è una signora, però anche per altri motivi. Non è che tutte le signore le preferisco a te, Parenzo, lo sai. Dipende. Non è che facciamo di tutto un erba un fascio. No, assolutamente. Comunque, allora, io è voglio... una gravità assoluta quello che ha detto la... Esagerato. Chiedete le mie dimissioni. Esagerato. La Santa Chiesa. Avanti, dimmi perché è una gravità assoluta. Avanti, su. Una gravità assoluta. E dov'è? Proprio. Dov'è questa gravità? Dimmi, dov'è questa nell'ordine, gravità? Nell'ordine. Appesi dei manifesti a Milano con scritto sì, via le BR dal tribunale. E li ho condannati senza se senza ma, e ho detto che è stata una cosa sbagliata, che è stata una cazzata. E nonostante questo dici io lo voto, gli do la preferenza. Io lo voto per questo. Sì, lo voto, lo voterebbe, sì. Perseguitato della giustizia. Si ricordi che il caso di un perseguitato clamoroso fu quello di Enzo Tortora, che mai si sarebbe sognato di appendere dei manifesti a Milano come quelli che sono stati appesi. Le battaglie sulla giustizia. Guardi, anche il nome di Tortora mi ha dato un motivo in più che se magari scelgo di votare Lassini, anche per Tortora. Guardi, non scomodi la memoria di Tortora accostata a quella di Lassini, perché è una vergogna questo paragone. Ho capito. Processare Enzo Tortora. Finitela di battagliare. Generale, mi faccia un favore, gli dia una camomilla. Adesso lo calmo un attimo. Le battaglie scusi, però lei serie, l'ultima volta che è venuta la Zanzara, a proposito di vita privata che prima mi evocava, no, io della vita privata senza, guardi. No, se ho capito. Vuole, ci vediamo della vita privata, la radio, gli italiani hanno tanti problemi. No, della mia vita privata non ne frega niente a nessuno. Lei mi ha detto una volta, io se lei dice una cosa su Alessandro Sallusti la querelo. Dopodiché abbiamo visto delle foto su Chico. E lei non sa mica delle foto. Cosa avete visto? Delle foto pazzesche. Le foto che potrei fare anche con lei stasera, guardi. No, io ho attaccato in camera le foto della Santa Anchetta. Le dico, le foto che ho con Sallusti sono pronta stasera a farle con lei. Va bene? No, vabbè, mano nella mano, adesso è un po' esagerato. No, non era proprio. Le dico, sono disposta. Se ho la mano. Dunque, nonostante questo, lei dice non c'è nessuna relazione tra me e Alessandro Sallusti. Vabbè, ma non è un... dico, sono disposta con lei. Vediamoci stasera, facciamo una passeggiata e sono disposta. Vabbè, comunque, niente di nuovo. Niente di nuovo su quel fronte. No, ma per una questione di altezza. Capito. Lei tacchi, lei tacchi. Senta, mi scusi, bene, però tornando la ginnastica va bene anche con Parenzo. Va bene anche con Parenzo, se no si arrabbia poi, sennò ci rimane male. Però voglio dire una cosa, adesso tornando a questioni serie, Napolitano a fare quell'intervento ha sbagliato o no? Ma guardi, Napolitano, io non voglio criticare il presidente Berlusconi, l'ha criticato. Io sono una donna di destra, un grande rispetto per le istituzioni, però Napolitano le faccia anche per altre cose che succedono in questo paese, non giri la faccia dall'altra parte. Cioè, per esempio, per chi dovrebbe fare? Per Cascini? Quando per i magistrati fanno i comizi, quando i magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati dice che il Parlamento non può legiferare in materia di giustizia, quando Assa Rosa innega Candeggia, no, Napolitano sulla Sorrosa mi sembra esagerata. Sorrosa è un Lazzini, ma scusa. Vabbè, Candida è un candidato, questo c'è differenza. Lazzini è un candidato indipendente, peraltro. È un candidato, non è sempre del un candidato della libertà. Ma so, questa Moratti non, veramente ha ricattato Berlusconi dicendo: guarda, è una cosa incredibile. Gli ha detto a Berlusconi o io o lui. Sui giornali c'è scritto, come lei mi ha ricordato, chi ha detto o me o Lazzini. Berlusconi però ha ceduto, eh? Com'è? Berlusconi ha ceduto. Su... Berlusconi ha un interesse che va un pochino più in là della Moratti. Ah, lei dice. Cioè, che idea ha della Moratti? Se fosse per Berlusconi la Moratti, no? No, no, che idea no. Io non ho. No, che idea Berlusconi ha della Moratti? Ho un'idea su Lazzini, sulla Moratti ho l'idea, niente, decideranno i milanesi, io voto la Moratti certamente. Con la puzza sotto il naso, cioè con turandosi il naso, la puzza sotto il naso è un'altra cosa. Turandosi il naso? No, mettendomi in punta dei piedi perché è molto alta. Non turandosi il naso, no. Mettendomi in punta dei piedi. Per fortuna che ho fatto danza classica e sulle punte ci sto bene. Senta, ma facciamo un'ipotesi. Prenderà più di, secondo lei, più di 10.000 o meno di 10.000 voti Lazzini? Guarda, potrebbe prendere tanti voti, potrebbe prendere tanti voti. Ma sa, sono tanti incavolati con le procure. Sa che le procure adesso vogliono anche fare le liste delle candidature, che le procure vogliono far cadere. Voglio dire, le procure hanno fatto cadere gli ultimi 5 governi. Passiamo dal 94 al governo di Craxi, al governo di Berlusconi, al governo di Prodi. Ha sentito la signora Stefana Craxi che ha detto di Berlusconi? Si dovrebbe dimettere, secondo lei? Questo mi dispiace. No, io non faccio ricatti, non metto ultimatum. Ognuno, io sono per la libertà. Beh, dice che sono Berlusconi è ridicolo. Sostanzialmente ha detto che Berlusconi è un uomo ridicolo, che si ridicolizza con questa barzelletta. E io trovo che invece Berlusconi è un uomo geniale, un uomo seducente, un uomo capace, un uomo intelligente, un uomo che ha invitato le città satellite, che ha invitato la televisione commerciale, che ha fatto un partito, che passerà adesso la storia. Non faccia l'elenco, sennò non finiamo più. Infatti non finiamo più, dovrebbe fare tutta una puntata. Grande statista del secolo, Berlusconi. Cosa dice Parenzo? Lo descrive come il più grande statista del secolo, va bene, beh, ognuno ha i suoi miti, va bene, per carità. Va bene, va bene. Lei che miti ha, Parenzo? Che miti ha, Parenzo? Ma non è questione, che i miti miei non interessano a nessuno. Ma arrenditi, stasera siamo 2-1, ti devi arrendere. Mettiamo nell'angolo. Arrenditi su stasera, alza le mani e mettiti il cuore in pace per i tuoi figli, che se vuoi un paese migliore devi credere in Berlusconi. Ma adesso non esageriamo. Guardi, mi sto toccando. Che hai detto, ti stai? No, sto facendo le corna a carne, dai, lasciamo stare. Perché le conferenze lo sai meglio di me. Ma voi sareste tutti disoccupati. Vabbè, adesso non esageriamo. Che... Ma di che parlereste? Dobbiamo, ma chiudere. Non ci sarà più Berlusconi. Che facciamo? Tra 20 anni, che facciamo? Voi disoccupati. A dopo, grazie. Siamo qui, caro Parenzo, siamo tornati in onda con la Zanzara. Sì. Ti manca la Zanzara anche per 15 minuti, di la verità. Confessa. Ma anche nel weekend anche. Beh, adesso non esageriamo, dipende da quello che si fa nel weekend, naturalmente. Perché tu cosa fai nel weekend? Che sei, commissario d'Avanzoni, Santoro? Che sei? Commissario d'Avanzoni. 800 24 00 24, questa è... È la Zanzara. E facciamo annunciare il... Mi dispiace averti tolto questo privilegio, cioè l'annuncio del TG3. Però io, abbi pazienza, preferisco la voce di Maristel Polanco. Partiamo. Ma come? Io non ho capito perché Maristella alla fine dice: e sentiamo che cosa deve dire. Perché cosa deve dire? No, ma scusami, non puoi pretendere dalla signorina Maristel Polanco che si è prestata a questo gioco. Che cosa deve dire? Ho capito, ma era impreparata. Non è che l'abbiamo istruita prima. È normale che gli è venuto così, anzi, le è venuto anche bene questo annuncio del TG3, devo dire, insomma, me lo risento sempre in maniera molto piacevole. Sentiamo, infatti. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Romani sul nucleare, solo un rinvio in attesa di chiarimenti in Europa. Referendum superato, l'opposizione hanno paura del voto popolare. Centralità del Parlamento rispetto al Colle, proposta di Ceroli del PDL per cambiare l'articolo 1 della Carta, Bersani, centrale e lavoro. Il governo ricorre alla Consulta perché i giudici di Milano non ritennero legittimo impedimento l'assenza del premier al processo Mediaset. Vertice a Palazzo Grazioli, rimpasto di governo subito dopo Pasqua. I responsabili: vogliamo posti chiave. Berlusconi: a Milano ci metto la faccia. Tremonti: fisco oppressivo con le imprese, troppi controlli. CGIL: i diritti del lavoro non si toccano. Banca Italia: correzione dei conti a settembre. Dopo Francia e Gran Bretagna, anche l'Italia offre la disponibilità di inviare istruttori militari in Libia per addestrare i ribelli. Un anno fa la catastrofe ambientale nel Golfo del Messico, 1 milione di litri di petrolio dispersi nel mare, sulla costa il lavoro non è finito, dice Obama. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro di essere padrone dell'intero universo. Poi, malgrado la porta, è entrata una zanzara, la zanzara, la zanzara, una specie assai rara, assai rara, assai rara, di che tipo non so, portava una gonnella, era abbastanza bella, mi punse sulla lingua e non ti scrissi più. Eccoci qui, eccoci qui. Allora, Pennacchi, il fascio comunista, Antonio Pennacchi, come Grillo, scatenato, scatenato su tutti i fronti. Senti, noi siamo sopra. Che la verità, loro dicono centrodestra, centro, questi sono al di, ben, noi ci colleghiamo ben al di sopra, oramai, delle vecchie categorie di destra e sinistra. Quelli sono ben al di sotto di destra e di sinistra, stanno proprio al di sotto del bene e del male. Assieme ad un coniglio che ha portato scompiglio dentro la terra mia, suona un'ave marina. Sembra Grillo, siamo sopra, al di là degli altri, scatenato su tutti i fronti. Pennacchi è la persona seria. Si sciolgano i seria, ma che stai dicendo? Si sciolgano i partiti. È un bravo scrittore, non capisco perché si debba candidare a fare il sindaco di Latina, una cosa. O il capolista, ma non ha senso, non ha senso. Anche idea che i bravi scrittori restino a fare i bravi scrittori. Punto. Senza e poi soprattutto quando devono sparare queste stupidaggini, si sciolgano i partiti. Sentiamo, sono ancora iscritto al PD, si sciolgano i partiti. Che vuol dire si sciolgano i partiti? Come Grillo, uguale. Allora, se voi mi dite che il Novecento è finito, le ideologie del Novecento sono cadute, non capisco perché poi non si possano fare ragionamenti nuovi. Io sono ancora iscritto al PD, oltretutto. Mo mi cacceranno questo giro, ma insomma... Il mio sogno sarebbe non che ci cacciano a noi, ma che se sciogliessero quei partiti e ne facessimo uno nuovo... Unità nazionale, unità popolare, una cosa di queste, perché se continuiamo a ragionare con i vecchi schemi, con i vecchi recinti, chi ce frega sono sempre i padroni. Poi ha detto: i traditori non siamo noi, il fascismo era rubare ai ricchi per dare ai poveri, figuriamoci, ha rivalutato il fascismo. Cioè, è una cosa pazzesca, dice delle cose incredibili, incredibili. Cioè, non sarà pure simpatico a quest'aria con questo cappello, parla in maniera boccaccesca e anche, se vogliamo, molto naif e originale. Però insomma, uno deve vedere pure quello che dice, perché altrimenti il vero... ma è la storia di una persona, operaio, che ha fatto... Ho capito, una storia straordinaria, ma... Punto. Cioè, un settore sociale, una però storia la politica è un'altra civile. Cosa, diciamo la verità. Bisogna avere il coraggio di dire queste cose, sennò uno esalta le persone. Sì, ma ha delle idee. Io voglio ma quali sarebbero su Latina? Ma che ne so? Sì. Su Latina non lo so. Io che non vanno sciolti tutti. Però, siccome noi attacchiamo Grillo quando lo dice, permettimi di attaccare Pennacchi quando lo dice. Non è perché Antonio Pennacchi è uno scrittore simbolo, simpatico. Grillo si vede anche troppo sul serio a questa idea della democrazia via blog, ma via adesso, internet. Sì, d'accordo, non mi sembra che Pennacchi si invece ironizzi. Il vero traditore è chi sta con Berlusconi, uno come lui i fascisti l'avrebbero spedito al confine. Adesso c'è questa rivalutazione dei fascisti da parte di Pennacchi, è una cosa pazzesca. Avrebbero messo via il confine, sentiamo. A quei tempi, ma da mo' che Berlusconi stava al confine, ma secondo voi gli davano 3 televisioni? Ma sai le bastonate ai tempi che gli dava quello là? Sì, è simpatico, per carità, è divertente, come Aldo Busi, però diciamo la verità, cioè, di che stiamo parlando? Questo bisogna dirlo, perché sennò altrimenti uno dice: beh, Pennacchi straordinario, sì, lo sentiamo, è divertente, ci fa ridere, ma di che parliamo? Di che parliamo? L'amministrazione di una città, Pennacchi, ma secondo me manco gli va a Pennacchi. Vabbè, sì, comunque, si è messo in gioco. Berlusconi come Mussolini, offensivo per il duce. Berlusconi uguale il fascismo, eccetera. No, questa è una cosa che non si può fare. Questi sono paragoni che in storia non si possono fare, sono storie non si possono, e poi sono estremamente offensivi e non si possono fare. Sono offensivi nei confronti di Mussolini, ovviamente. Non c'è paragone. Dice, ma pure quello andava a Mignotti. Sì, ma poi non le faceva ministro o deputato. Vabbè, siamo al delirio, su, diciamo la verità. È divertente, è una grande pièce teatrale, ma va benissimo, cioè è straordinario, ma più di questo non può essere. Perché... ha posto un problema sulla selezione della classe dirigente del nostro paese. Su, se non ma ammetti dai, questo, dai, se non su. Ammetti questo, ma quale problema? Che l'ha posto Pennacchi in questo modo? Paradosso, ma l'ha posto in questo modo, Pennacchi, su, non diciamo stupidaggini. L'ha posto in questo modo il problema della classe dirigente d'Italia. Ma su, ma smettiamo. Con l'uso del paradosso. Ma non esiste, il paradosso dai. È un espediente. Non esiste. Niente, comunque. Via, rogo Pennacchi. No, via, che è rogo Pennacchi? Ma quale Pennacchi? Arrogo. L'abbiamo pure invitato, non so se lo chiama oggi o domani. Ti diverti con Pennacchi, Ti diverti molto, Pennacchi. Perché è un grande intellettuale, una persona libera, e molto simpatico, scrive benissimo, ecco, appunto, ed è una intelligenza di questo paese. E perché vuole candidarsi a Latina? Spiegami. Ma non ho capito, perché la Minetti può fare il consigliere regionale in Lombardia e lui non può fare il sindaco. Questa di Latina. È buona, ma sarai questa, bello razzista questa, anche te, questa è buona, questa è buona, questa è buona. Vagamente elitario, la Minetti va bene, il massaggiatore del Milan va bene, il geometra di Arcore va bene, e Pennacchi non va bene, andrà a fare il sindaco di Latina. Ma io non perché? Ho detto che va bene la Minetti, attenzione. Non no, ho detto capito, però, però questo è buono, questo è buono, questo è un buon argomento dialettico, devo dire. Ti stai preparando a Exit questa sera, dove sarai ospite, annuncialo, no? Sono a caricarmi a Milan, io. Sei caricato a Milan, sei caricato a pallettoni. Michele, provincia di Salerno, 800 24 0024. Buonasera, dottore Cruciani. Dica. Sentendo tante cose, io la seguo quasi tutte le sere. E la ringrazio molto. Dove arriva il suo segnale, perché a volte... lo so, quello purtroppo cioè, è un problema che ci perseguita da anni. Allora, detto questo, mi sento un po' a disagio dopo aver sentito tanti personaggi questa sera che si sono succeduti. Sì. Ma ciò non toglie... Ma io veramente solo uno è arrivato fino a per adesso, poi gli altri naturalmente con vari contributi. La signora Santanchè, sì. Esatto, anche la signora Santanchè, è vero. Sì. Niente, che è stata dire... direi moderata nei confronti della Moratti, anche nei confronti del presidente Napolitano, no, insomma c'è di tutto. Detto questo, al dottor Parenzi Parenzo, chiedo scusa. Vabbè, vorrei dire che dovrebbe essere un pochino meno acido ogni qualvolta se parlare di Berlusconi. Ma veramente ride come un matto, fino adesso ha riso e basta. Ma in un certo qual modo si diverte. Ebbene, io a lui lo metto sullo stesso livello per quanto riguarda il mio giudizio. Lo trovo una persona molto simpatica, molto, come dire, sì. Attiva. Ecco. Allora, attiva che non significa toglie, in questo periodo? Come graduatoria, assieme, io sono un elettore di centrodestra, sì. Che non ho mai tradito. Si e era mai più tradito, o meno intuito, però. Insomma. Beh, non è che votare per un altro partito, per un'altra cosa, sia tradire, No, chiaro. No, questo è il linguaggio, perché io non sono, come dire, una persona molto... No, ma noi siamo... Non è una trasmissione snob questa, Michele, non si preoccupi. No. Sbaglia molte nel dire delle cose. Sì, vabbè, ma non si volevo dire che... Oggi il dottor Parenzo, lo vedo come ti sei da qualche tempo che segue da volta. Che ha fatto Parenzo? No, che ha fatto? Ogni qualvolta sente parlare bene di Berlusconi, o Berlusconi lui trova subito un modo, un altro per denigrarlo, diciamo, per quelle, ripeto, mi scuso per la parola se non sono esatte, come se si divertisse che vedere... che Berlusconi dovrebbe essere alla fine, che posso dire? Bene, io come elettore di centrodestra mi auguro che... Lei si augura di no, d'accordo, registriamo questa cosa. No. Allora volevo dire anche questo. Però Michele, deve essere veloce, perché altrimenti... Veloce. Lo vorrei mettere assieme a quei signori del centrodestra, perché pur votando ci sono alcuni parlamentari che non è che mi rappresentano, non mi piacciono, detto volgarmente. Non le piace, vabbè, d'accordo, Michele, però non è che noi siamo qui a registrare, per carità, tante cose, però il fatto che a lei non piaccia Parenzo, non piaccia non so chi altro, invece le piaccia Berlusconi, non mi sembra una considerazione, però per carità, grande rispetto anche per lei. Francesco da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo fare una piccola precisazione, sì. Perché secondo me non si è ben compreso... fino in fondo quello che secondo me volevano dire quei manifesti A proposito delle Brigate Rosse nelle procure, sì. Non si è compreso. Non si è compreso in che senso, mi scusi? No, in questo senso, secondo me, si è subito pensato alle Brigate Rosse esclusivamente per gli omicidi, per gli assassini. In realtà le Brigate Rosse... E invece che cosa bisogna pensare quando uno pensa alle Brigate, Brigate Rosse? Le Brigate Rosse sono sicuramente anche quello, però sono state un fenomeno importantissimo nei nostri anni. Importantissimo in che senso, scusa? Importantissimo come... proprio importanza sociale, come presenza. Beh, sociale non lo so, comunque importanza sociale. Io facevo l'università e all'interno dell'università le Brigate Rosse e il terrorismo erano presentissime. Sì. Erano presentissimi dei gruppi di sinistra fortissimi. Certo. Che ma questo, con questo cosa vuol dire, scusi Francesco? Voglio dire che moltissimi, glielo dico, non faccio nomi e cognomi per evitare. Fiancheggiavano le Brigate Rosse, vuole dire lei? Fiancheggiavano. Sì, ho capito, ma qui siamo nel campo dell'analisi storica, Francesco, va benissimo tutto, lo diceva anche lei nel prima. Ma lei crede che davvero dietro quel manifesto ci sia qualcuno che si sia messo là a riflettere? Beh, le Brigate Rosse... No, io credo che alcuni di quei fiancheggiatori, che erano i capi dei collettivi, delle facoltà di giurisprudenza, credo perché so... Erano anche, poi sono diventati magistrati o erano vicini ai magistrati, oggi non lo so. Sono magistrati. No, però ho capito. Francesco, adesso prima che io chiami l'ambulanza, il problema è molto semplice. Via le BR dalle procure. Non capisco cosa c'entri col suo ragionamento. Cioè, secondo lei qualcuno ha pensato, siccome ci sono magistrati che da giovani erano fiancheggiatori delle Brigate Rosse, allora qualcuno ha voluto scrivere via le BR dalle procure riferendosi a quei magistrati? No, si riferisce esclusivamente a un gruppo di persone che probabilmente perseguendo un progetto politico, anche eversivo, ha continuato questo progetto politico che prima era espletato attraverso le Brigate Rosse, attraverso una certa presenza e un certo lavoro fatto nelle procure. E io credo che avvenga. Francesco, si fermi un attimo, 19:30 abbiamo la borsa. Questa zanzara folle apre le mie finestre, calpesta le mie zolle, io non ti amo più, è gelosa del canto, persino delle scale, un po' scende, un po' sale. Eccola la zanzara folle, torna in onda, caro Parenzo, ti piace questa musica, eh? Chi l'ha scritta questa? L'ha scritta Giovanni Nuti. Giovanni Nuti. Bravo. Straordinario, carina. molto bravo. È la musica che offriamo agli ascoltatori questa sera, la musica della zanzara. Cambia ogni giorno, come sai, no? Cambia ogni giorno. Sì, no, ma anche questa idea è buona di fare la colonna sonora. No, è complessivamente una ottima trasmissione. Queste idee continue che ti vengono, cambi la musichetta, poi c'è ai, è buona, è divertente. Me lo dicono in tanti, stai girando. Senti cosa dice la Gelmini, invece, con un paragone che anche a me, che sono uno, come dire, che non si indigna mai di nulla, pare francamente eccessivo. Cioè, Berlusconi è generoso... Vabbè, Gelmini, adesso non è... Ah, Gelmini. No, ma possono anche... C'è il reato di respiro. No, c'è il reato di respiro. Devo dire che mi suggeriscono, giustamente, dalla regia, che è basata questa canzone, è ispirata da una poesia di Alda Merini. Una poesia di Alda Merini. Sulle zanzare, sai che a Milano ci sono un sacco di zanzare, no? Tu che hai abitato sui Navigli, poi la Merini abitava sui Navigli in una casa meravigliosa. Gelmini, senti che paragone che fa. Secondo lei quelli di destra pensano che fosse una ragazza in difficoltà, sì, e lui l'ha aiutata? Io penso di sì, perché conoscendo il presidente Berlusconi non sarebbe nemmeno la prima volta. Anche nel caso dell'Aquila, anche nel caso di persone normalissime che hanno la... È inutile, mi scusi, è inutile, sono moltissimi i casi in cui... Ma hai detto l'Aquila, il terremoto, il Berlusconi ha fatto beneficenza a moltissime persone. Con Rubi, ma santo cielo, ma c'è un limite a tutto. Essere padrone dell'intero universo. Generosità di Berlusconi collegata alla sua generosità con i terremotati dell'Aquila. Magari ci sarà stato anche qualche caso di generosità, però forse non era il caso di fare questo accostamento. Che dici, Parenzo? Ecco, esattamente, forse. Poi sembra che io sia troppo anti-berlusconiano. Ragioniamo sulle cose che vengono dette. Dai, mi pare è talmente evidente. Su. Cota, questa è curiosa, questa cosa qua che dice Cota. Cota, persona seria, assolutamente seria, non va mai sopra le righe, eccetera, eccetera. Senti, Manifestazione pubblica, scuole elementari schierate, arrivo io come presidente della regione, i bambini, perché applaudono tutti, mi applaudono, sì, e le maestre picchiano sulle manine e dicono no, non dovete applaudire, dovete fischiarlo, perché lui è Cota, il presidente leghista della regione. Questo è un esempio. Non erano, non erano. nella testa. Anche qui, no, magari sarà stato vero, ma questo era per dimostrare che cosa? L'indottrinamento nelle scuole era per dimostrare una cosa di questo tipo. Vabbè, no? Le maestre che picchiano sulle manine i bambini e dicono: no, non applaudite Cota, quello è della Lega. Non lo so, magari è successo. Detta così sembra appunto una roba, come diresti tu, da regime, da Pol Pot, ma non. Non lo so, non lo so, ma può darsi pure che sia così, non lo so. Però farei risentire Lehner sulle Brigate Rosse, che dici? Lehner sulle Brigate Rosse, i magistrati che fiancheggiano le BR, senti. Vorrei aggiungere qualcosa però anche sul manifesto. Io naturalmente non condivido il manifesto, ma non lo condivido perché è sbagliato, avrebbe dovuto dire via i comunisti dalle procure. Poi che ci siano stati fiancheggiamenti, questo è un fatto storico. Vorrei citare alcuni fiancheggiamenti alle BR, no? Certo. Poi continua, Lenera, sentiamo, continua. Ci fu un noto magistrato che in un congresso di MD si alzò in piedi e sbottò e disse: lo Stato borghese non si riforma, si abbatte. Io potrei fare anche il nome, ma lasciamo perdere. È un noto magistrato. Fallo il nome. Si chiama Francesco Greco. Io avevo un grande stabile. Qui siamo 19:40 800 24 00 24. Direi ci sbrodoliamo un po', no, perché a me non me ne frega niente di essere citato nelle trasmissioni televisive, però insomma ieri l'uscita di Lassini alla Zanzara è stata citata da Ballarò. Ah sì, fallo sentire, perché ero fuori ieri e non sono riuscito a sentirlo, fallo risentire, sì, è utile. Vabbè. Ora, questo è l'atteggiamento mentale. Sì, con le dico cui... solo che Roberto Lassini, l'avvocato che avrebbe fatto questi alla Zanzara di Radio 24, dice: è vero, nei manifesti che ho fatto c'erano le stesse cose già dette da Berlusconi. Chiedo scusa anche ai giudici. Il problema è questo. È uscito sulle agenzie di ora. Questo signore oggi ritira, mi pare, la sua candidatura, comunque insomma non parteciperà. Ma il vero mandante di quei manifesti si chiama Silvio Berlusconi. Questo era Giovanni Valentini di Repubblica, che dice: il vero mandante è Berlusconi. D'altra parte lo stesso Berlusconi non è intervenuto, anzi pare che dopo questa telefonata con la Moratti eccetera eccetera abbia dato la sua solidarietà a Lassini, pare che abbia dato la sua solidarietà. O comunque non ha preso una posizione netta, Lassini ha sbagliato, l'ha presa, è vero, l'hanno presa vari dirigenti del PDL in un gioco delle parti, ancora tutto da verificare. Bene, io direi di tornare con Francesco da Bari per concludere. Francesco, sempre all'800 24 00 24, intanto chiamiamo un altro ospite, molto interessante anche qui, vediamo cosa ci dice dopo la Santa Che. Francesco, dica. No, io stavo dicendo che appunto negli anni 70 e 80, nelle università, noi abbiamo assistito a gruppi che di fatto hanno fiancheggiato Brigate Rosse, Prima Linea, Autonomia, e questi gruppi, che erano gruppi di collettivi studenteschi, che teorizzavano l'eliminazione dalla vita sociale e politica dei cattolici. Ho capito, ma perché un manifesto adesso che ricorda queste cose? Non capisco, semmai quel manifesto si riferisse a cose del passato e non si riferiva... L'errore può essere sicuramente un errore storico indotto da... E allora? Dal clima e dal fatto che appunto anche gli altri, voglio dire, anche la sinistra quando parla di Berlusconi parla di mandante, parla con terminologie che non sono proprie, sono tipiche magari di altri settori, di settori del terrorismo, di settori criminali, di settori e quindi sull'onda di questo, però è profondamente vero, del resto mi sembra che anche lei cosa è vero, non ho capito, che... Lehner, esattamente, sono due persone un po' diverse come sensibilità politica. È profondamente vero che fra i magistrati, fra quelli più esposti, noi, io vivo in Puglia, fra quelli più esposti nella lotta, guarda caso, Dicendo che nelle cause politiche, nelle cause contro Fitto, cioè i magistrati che sono contro Berlusconi nel passato erano anche simpatizzanti delle BR, non ho capito. Sono quelli contro Berlusconi perché non li conosco. So che molti quelli più politicizzati sono quelli che erano fiancheggiatori nel passato delle Brigate Rosse. No, che facevano parte di collettivi che non so se personalmente, perché poi le responsabilità penali sono sempre personali. Ma questo può darsi, però ripeto, sono tutte considerazioni che possiamo fare. No, invece andrebbero fatte. E perché che importanza ha secondo lei? Cioè chi è stato perché nel passato? C'è un disegno eversivo, culturale ed eversivo, che è continua, che non usa più la guerra, non usa più la forza armata, ma utilizza altri strumenti. E del resto c'è un errore storico nostro, dei cattolici, sì, del mondo cattolico in Italia, che ha lasciato a questi signori settori della magistratura, della scuola e dell'università. Va bene, ho capito. Tenga conto. No, Francesco, però per concludere, davvero. Concludo. Ancora oggi ci sono gruppi studenteschi che usano la stella a 5 punti. Sì, però voglio dire, ripeto. Un candidato o un gruppo di candidati alle elezioni comunali che mette un manifesto, lo può mettere lei un manifesto, poi se ne assume la responsabilità. Un gruppo di candidati che fa un manifesto di questo tipo o spiega sul serio quello che voleva dire, assumendosi la responsabilità e magari anche non ritirando la candidatura, cercando di motivare, magari come sta facendo lei, io non condivido come sta facendo lei quei manifesti. La ringrazio, Francesco. Parenzo? Eccolo. Che stai facendo? No, ascoltavo Francesco. Ascoltavo con rispetto il radioascoltatore. Allora, abbiamo il senatore Roberto Castelli. Buonasera. Buonasera. Come sta? Buonasera. Come sta? Ecco, un po' stanco. Stanco, eh? Oggi è giovedì, però è ancora presto. No, perché stanco? Perché io ho avuto un sabato molto pesante. Che è successo sabato? No, non è andato a fare la routine dei leghisti che giustamente con grande piacere vanno in giro, campagna elettorale, a incontrare militanti, a inaugurare sedi, lo facciamo molto volentieri, però naturalmente poi è mercoledì, però tra l'altro non giovedì, paghiamo le conseguenze. Senta, senatore Castelli, ma vorrei capire una cosa: questi manifesti, questa situazione di Lassini, no? Come la giudica? Cioè, questo Lassini dovrebbe rimanere in lista, va tolto, forse dal punto di vista giuridico è difficile toglierlo. Come la vedete voi? Perché può avere un'influenza anche sulle elezioni a Milano. Sì, sicuramente, a mio parere, non ci ha fatto gioco, nel senso che intanto bisogna prendere le distanze, questo è chiaro. È stato un manifesto assolutamente inopportuno, sopra le righe. Di polemiche ne abbiamo già abbastanza. La lotta politica, a mio parere, va fatto su dati di fatto, non su dichiarazioni di natura eclatante che poi diventano indifendibili, tant'è vero che poi questo signore ha dovuto chiedere scusa e in qualche modo ritirarsi dalla candidatura, anche se da un punto di vista tecnico ritengo che non sia possibile, però... Senta, dunque è indifendibile, Lassini indifendibile. In caso dice che rinuncerà a fare la campagna elettorale, sì, però si è dato sostanzialmente anche la zappa sui piedi, quindi è chiaro, ha fatto un errore, ha scritto una cosa sbagliata, perché... Anche se lui dice di non averla scritta. Però c'è un fatto curioso. Però, qual è? No? Qual è il fatto curioso? Perché lui scrive fuori le DR dalle procure, quindi si poteva anche immaginare che all'interno della procura ci potessero essere, che ne so, dei funzionari... che potevano essere fiancheggiatori delle brigate rosse nel passato, dice lei, degli impiegati, invece tutti hanno pensato subito ai PM, come mai? E come mai? Perché i PM sono brigatisti? Non lo so, partito fuori le briere dalle procure, perché tutti hanno pensato subito che si riferiva ai PM? Perché secondo lei? E non lo so, che ne so, mi dica lei, ma è vero quello che diceva ma è vero quello che dice l'ascoltatore, secondo lei, che è stato anche ministro della giustizia? Ho sentito cosa diceva. L'ascoltatore diceva che lei è stato anche ministro della giustizia, che storicamente è vero che ci sono alcuni PM che nel passato erano fiancheggiatori delle brigate rosse. Ma a me questo non risulta né dal punto di vista storico né dal punto di vista giudiziario. Non mi pare che sia mai avvenuto che sia rilevato il fatto che ci siano stati dei PM o dei magistrati che fossero fiancheggiatori di brigate rosse. C'è una questione, adesso non lo so, faccio un'ardita proprietà transitiva dell'eguaglianza. Qual è? Se prendiamo gli scritti di Magistratura Democratica in cui loro si definivano compagni, c'è stato un periodo in cui le Brigate Rosse erano definiti compagni che sbagliano, però naturalmente la mia è una provocazione. Cioè, all'interno penso che siamo in una trasmissione molto che ama molto le provocazioni, sì. Però è chiaro, ribadisco adesso tornando a all'interno di Magistratura Democratica nessuno ha mai pensato che a Milano ci fossero i PM brigatisti, quindi questo signore ha sbagliato clamorosamente, però... Quello che io sentivo prima, quello che diceva Santanchè, ecco, una cosa a me ha colpito, colpisce anche che anche lei abbia in qualche modo abboccato questo amo, io ritengo un giornalista, che amo abboccato? Non il solito giornalista che ha consegnato il cervello alla sinistra, però secondo me un conto, un peso si possono dare le parole di un cittadino che è anche candidato, ma va bene, un cittadino. Che lo stesso scandalo, che invece secondo me è molto più grave, non l'abbia suscitato le parole del segretario ANM, che ha offeso il Parlamento. Io come parlamentare mi sento assolutamente offeso, perché da un segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati essere definito uno che moralmente indegno, non sì. è in grado di legiferare, mi sono sentito però qui. Senatore Castelli, allora, io qua per dire che ma io non ho boccato nessuna frase, perché le dico subito che quando di essere moralmente eticamente di livello quantomeno degno, e mi sento perfettamente in grado di legiferare se sono stato eletto. No, ma guardi, Castelli, quando però non mi pare che sia stato fatto sto casino, non mi sembra che no, ma quello però non lo deve dire a me, perché quando uscì fuori questa cosa di Cascini, non so se voi, io non seguo, tu purtroppo non riesco a sentirvi tutte le sere, no, quando uscì fuori se ne avete parlato, ritiro con la critica che ho fatto. No, ma non, adesso non stiamo parlando di critiche, non mi importa, tutte le critiche vanno bene. E quando uscì importa, questa cosa tenere in massimo conto le critiche che io le faccio. No, non importa, nel senso ribattere ogni critica. Lei fa una critica assolutamente corretta. Però il Presidente della Repubblica non risulta che abbia detto nulla. Ah, ecco, dunque, secondo lei doveva intervenire in maniera molto vigorosa anche su quelle frasi di Cascini. Oltretutto lui è per Costituzione il capo dei magistrati, quindi magari una parola, un invito, quantomeno a tenere Tony Soft, a mio parere, poteva anche farlo, visto che poi no, ma Castelli, dunque Cascini, da questo punto di vista, per il ruolo che ha, è peggio di quei manifesti di Lassini, si può dire? Ha un livello di responsabilità enormemente superiore. Là c'è un cittadino candidato che ha scritto una boiata. Sì, e dall'altra? E di lì c'è un rappresentante della classe dei magistrati. Insomma, il livello di responsabilità mi sembra ben diverso. E dunque, oltretutto, questo cittadino va di fronte a un tribunale inappellabile, quello degli elettori, e invece quel magistrato io non va di fronte a nessuno. Allora le ricordo, ma lo ricordo giusto agli ascoltatori, anche un po' per difendermi dalle sue critiche, che no, quando sa che io la stimo molto. No, ma è giusto, ma le critiche si fanno anche tra le persone che si conoscono e si stimano, non è quello il punto. Quando Cascini disse quelle frasi, eravamo qui con Parenzo e entrambi, perché io qualche volta Parenzo è anche d'accordo con me, abbiamo criticato in maniera molto forte. Certo, Parenzo poi a quell'atteggiamento dice sì, vabbè, ha detto questo, però no, io su questo l'ha fatto bene, ma ribadisco, perché io non riesco malauguratamente, io vi ascolterei tutte le sere, ma purtroppo non ci riesco, quindi se avete sollevato questo caso... No, come no, lo abbiamo sollevato, lei ha ragione, se i magistrati alle volte andassero un po' meno in televisione e si esponessero di meno su questo sarebbe meglio, dopodiché devo anche ricordare, e Cascini ha sbagliato a dire quella cosa... Beh, anche cosa. Spataro ieri sulla questione di Berlusconi paragonato a Mussolini, oggi nessuno l'ha messa... Forse anche Spataro ha sbagliato, senza dubbio. Io gliel'ho fatto notare subito, no? Ero lì in trasmissione... C'è secondo me sono un'uscita di pessimo gusto. Sì, l'ANM, vale a dire l'acronimo sta per Associazione Nazionale Magistrati, è il sindacato volgarmente detto. Ma che c'entra? Rappresenta un... No, fammi fare il ragionamento in 30 secondi. Il ragionamento è questo: se riconosciamo al sindacato dei magistrati, come al sindacato di polizia, il SIULP, il SAP, tutti i sindacati che esistono nel nostro paese, il diritto di critica, anche se sono dei funzionari dello Stato, che voglio dire, il sindacato di polizia, quando critica no, ma il ho governo. Capito, ma il problema è un altro. Ho capito. Ma allora, nessuno dice che non può. Allora, secondo me sì, d'accordo, ma va benissimo. Io ti sto dicendo semplicemente. Io ti sto dicendo semplicemente che, a parte che bisogna vedere quello che uno dice, non è sempre valido questo ragionamento. Se uno dice che il Parlamento è indegno, la maggioranza è indegna di legiferare, abbia pazienza, non è come dire, non è come fare una sciocchezza. Questo si sta parlando, non è che si dopodiché vuole quello è del parla come sindacalista. Vabbè, ma questa è una finzione, su, dai, è veramente una questione. Parenzo sta facendo una questione Dana Caprina, mi scusi Parenzo. Ma sì, ma è una finzione. Sta rendendolo indifendibile. È una finzione, basta. Un conto è il diritto di critica, cioè dire questa legge è sbagliata, state facendo una legge sbagliata perché per questi motivi. Che già secondo me si può discutere. Dire sei indegno dal punto di vista morale e intellettuale, quello non è critica, è un insulto, è un'offesa violenta che 100 anni fa sarebbe stata... seguita da qualche disfida duello. Senta, mi dica la verità, senatore Castelli, la Moratti che mette Berlusconi, che è successo? Parenzo è caduto o Castelli? Parenzo recuperiamolo, che ne so, ogni tanto cade il telefono qua, è la diretta, insomma, una cosa normale. Senta, la Moratti per voi non è il candidato ideale, diciamo la verità. Come sarebbe? sempre del candidato ideale. Lei dice di sì. L'abbiamo scelto, l'abbiamo appoggiato, l'abbiamo... Ma state facendo campagna elettorale a Milano? Perché ci sono... Altro che stiamo facendo campagna elettorale. Tanto ho visto oggi su alcuni quotidiani che io non andrei a Milano, tutte balle, ho già degli impegni a Milano, qui vado, sono già andato... Qualcuno dice che lei potrebbe fare vice sindaco addirittura. Ma io ringrazio della stima, ma ho delle cose direi altrettanto importanti da seguire. E il suo candidato ideale chi è? Il suo candidato ideale, per fare il vice sindaco al Milano nel caso in cui dovesse vincere Cellini? La Morale? Ritengo che la Lega da alleato, allora io stimo tantissimo De Corato, ho visto come lavora da vice sindaco, è un ottimo vice sindaco. Però ci sono anche degli equilibri politici da rispettare. E dunque? La Lega è un candidato che ha sempre sostenuto fedelmente tutti i sindaci del PDL, quindi credo che anche in funzione di un buon risultato elettorale gli debba essere riconosciuto questo ruolo. E il suo candidato ideale chi è? Salvini? Ma ce ne sono tanti, immagino. Vabbè, che ci dica un suo candidato ideale. Se fosse per lei sarebbe vice sindaco, sempre nel caso ma in cui c'è la Morante. Io mi rimetto a quello che diranno gli elettori. Vabbè, non è che conteranno solo... Prenderà più preferenze, probabilmente il più popolare, quello che è stato ritenuto più... Quindi, no. O non si vuole sbottonare Castelli su questo? Vabbè, no, militante, ha una passionaccia anche lei, no? Avrà una preferenza, che ne so, Salvini... Conto sono le simpatie personali che però non hanno valore politico. Io vedo tanti giovani, ecco, a me fa piacere a Milano, la classe amministrativa che viene espressa a Milano dalla Lega è tutta di giovani molto attivi, molto entusiasti, questa è la cosa che mi fa piacere. Vabbè, allora siamo quasi all'interruzione per la pubblicità, prima però, poi rimaniamo con il senatore Castelli, 800 24 00 24. Voglio chiedere una cosa, qualcuno ci dice perché non parlate della vicenda di oggi della Lega, degli assessori arrestati, credo che siano stati sospesi, no? Se non sbaglio. Ma sì, parliamone pure, no? No, ma sì, ne parliamo, però entrare in queste cose giudiziarie, sì, eccetera, no, eccetera. Parliamone, ma non abbiamo nulla da nascondere. Ma no, ma per carità. Ma adesso fra poco ne parliamo, non perché non se ne possa parlare, semplicemente perché bisognerebbe entrare in alcune vicende. Il conduttore, se le interessa, ne parliamo. Adesso vediamo. Se mi viene una domanda intelligente... Sì. Non ho nulla. Esiste il cerchio magico della Lega? Questo famoso esiste il cerchio magico intorno a Bossi, di dirigenti molto fedeli a Bossi? Il clan del cerchio magico, ne parlano tutti, però esiste o no, senatore Castelli? Se il cerchio magico della Lega sono i fedeli a Bossi, è un cerchio enorme. No, vi dica la verità. Non se l'è calata con la battuta, Però la risata è indicativa, la risata conferma. Ma no, ma non esiste un cerchio magico, esiste una serie di persone di cui Boss evidentemente si fida, ma poi è facilmente individuabile, voglio dire, basta andare a vedere diciamo i leghisti che in questo momento occupano posizioni istituzionali di rilievo per aver trovato quello che i giornalisti immaginificamente chiamano cerchio magico. Oh, esiste! Allora, Roberto Castelli, esiste un cerchio magico, basta andare a guardare gli organigrammi, torniamo troppo. Eccoci di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, il collegamento da Roma. David Parenzo, che è in macchina e si sta dirigendo verso gli studi di Exit, dove sarà ospite questa sera, ma voi potete tranquillamente rispondere, chi se ne frega. In collegamento sempre da Roma, se non sbaglio, il senatore Roberto Castelli, che è vice ministro dell'infrastruttura. Ha cambiato casa, Castelli? Sì. Dove si trova la sua, se si può dire, nella zona magari? Non diciamo proprio. Una zona limitrofa, poca distanza da quella che avevo, un'altra casa. C'è stata anche recentemente una sorta di invasione di troupe televisive a casa sua, no? La sua vecchia casa in via dei 420, famosa. No, è stata un'invasione, li ho invitati a casa mia, devo dire che dopo che hanno visto la mia abitazione sono finite le critiche, che hanno capito che era un'abitazione modesta, commisurato al valore dell'abitazione, diciamo che forse c'era un 15% in meno, 20% in meno legato alla politica che fa Lena Sarko. in Asarco, ma niente quartiere di Russo, niente vista. Monteverde Vecchio. Panfili, niente di niente. Monteverde Vecchio, diciamo limitrofa a Monteverde Nuovo, per chi non conoscesse Roma, una zona certamente non una zona popolare, però in alcune zone, in realtà anche in alcune parti di Monteverde è anche popolare. Invece adesso che zona è? Così la zona, indichiamo solo la zona, per carità. Ah, la zona è Gianicolense. Gianicolense. Poco distante. Diciamo poco di... Castelli cambia casa, da Monteverde al Gianicolense. Ha cambiato casa. Ha cambiato casa. Ancora no, fisicamente? Sì, già. Sì, già. Sì, ho cambiato casa. Quant'è? 500 metri, un chilometro di distanza da Vecchia? Quant'è? Sì, sarà 500 metri. Dov'è Parenza? Ancora non c'è. Sentiamo i titoli del TG1 intanto. Immigrazione, Bruxelles, via la revisione del trattato di Schengen secondo le richieste italiane. L'agenzia europea Frontex si impegna a più controlli. Libia, uccisi due giornalisti a Misurata, Italia e gli alleati addestratori militari dei ribelli, Sarkozy via da solo ed annuncia intensificheremo i bombardamenti. Vertice PDL con Berlusconi, riforma giustizia alla Camera entro l'estate, ipotesi rimpasto dopo Pasqua, conflitto attribuzione alla consulta per processo Mediaset. Record di assenteisti al comune di Bosco Reale nel Napoletano, 41 in manette, si facevano timbrare il cartellino dai colleghi. Italia sesta nel mondo per la ricerca scientifica, viaggio all'Istituto di Fisica Nucleare di Frascati, alta formazione ma all'estero si guadagna di più. In anteprima al TG1 il video di Gianni Morandi è Rinascimento, titolo della canzone ma anche del suo nuovo album, una raccolta di successi del cantante che ritorna con un omaggio alla vita. Siamo qui, 22 minuti, sentirei prima di tornare con Castelli, Paolo dalla provincia dell'Aquila. Caro Paolo, ecco. Dica... Eccomi. Buonasera Cruciani, allora? Buonasera Parenzo, anche se non c'è mi pare di adesso capire. torna, non si preoccupi. Ascolta, dica, io su. Volevo intervenire, sempre a proposito del discorso di Milano ovviamente. Ho sentito un attimo fa l'intervento di Castelli, ne approfitto un attimo per dire una cosa all'onorevole, che in effetti l'intervento che ha fatto a proposito di dire Cascini ha, diciamo... ha detto quelle parole nei confronti del Parlamento, non mi sembra proprio che sia la stessa cosa rispetto a quello che ha scritto. No, certamente sono due questioni diverse. Diceva Castelli che è più grave, diciamo, perché Cascini ha una responsabilità più grave, visibile, istituzionale. Molto più grave è quello che ha scritto delle BR, perché mi permetta. Sì, no, ma guardi, non lo devi dire a me. No, volevo ricordare a Castelli però che questo Parlamento, peraltro, per come è stato eletto i componenti di questo Parlamento, siccome si continua a dire che rappresenta il popolo, mi permette di dire che non è proprio così. Sì, cioè, però basta con questa storia della legge elettorale, perché sennò sembra che il Parlamento è stato eletto da alieni. La gente è andata a votare consapevole del fatto che ci fossero le liste bloccate. Di che stiamo parlando? Su. Scusate, non era cioè, non è che ogni volta si parla del Parlamento, la prima cosa che si dice, ci sono le liste bloccate, non è rappresentativo, perché sennò veramente c'è una delegittimazione totale, è ridicolo. Ne ho approfittato solo perché ho sentito Castelli e ho colto l'occasione. L'intervento era invece un altro. Io seguo molto attentamente le sue trasmissioni. Ho solo una critica da muovere. Ma potremmo fare tutte le critiche, prego. No, ho solo una critica. Noi stiamo ragionando su un personaggio, Lassini, un personaggio di secondo piano, che ha raccolto il suo momento di, ovviamente, di notorietà. Personaggio di secondo piano che ovviamente ha fatto campagna elettorale e chiaramente avrà dei risultati perché comunque potrà essere votato, mi pare di capire. Dice che non farà campagna elettorale, però praticamente l'ha già fatta la campagna elettorale. L'ha già fatta ed è stata la più efficace perché ha avuto veramente, avrà un successone. E la cosa incredibile poi, guardi un attimo la cosa, che questo personaggio sta dicendo delle cose che in teoria tutti si sono... hanno preso le distanze da lui. Ma anche lui ha detto che prende le distanze tra l'altro, per cui la paternità ancora la paternità di quei cartelloni, quei manifesti ancora non è chiara, tutti hanno preso le distanze tranne Berlusconi. Castelli, non è sorprendente questo? Tutti hanno detto la loro. Berlusconi però pare che abbia espresso solidarietà, non è che ha detto quei manifesti sono sbagliati, secondo lei li condivide Berlusconi? Adesso non le voglio fare l'interpretazione di quello. Ma chiederò a lui, io parlo per me. Lei non li condivide, l'ha già detto. Parenzo, sei tornato? Eccomi, sì, sento benissimo, ho capito anche l'obiezione del radioascoltatore. Paolo vuole concludere allora? Come, scusi? E io stavo dicendo, è proprio questa la cosa incredibile, il silenzio assordante di Berlusconi, della persona più importante che è Silvio Berlusconi, che è il Presidente del Consiglio. Un silenzio assordante che dice lunga evidentemente sul suo pensiero. E lui ha questi personaggi che ogni tanto, questi pasdarani io li chiamerei, che ogni tanto evidentemente fanno queste... parate che interpretano il pensiero del capo per gratificare cercare. Ma l'ha detto anche lui ieri qui alla Zanzara, cioè nella parte che abbiamo fatto sentire e poi rimandati in onda da Ballarò ieri sera. Però, cioè, ho scritto, cioè, quei manifesti sono ispirati alle parole di Berlusconi sul brigatismo giudiziario. Mi piacerebbe che lei, che faccio? Devo prendere il fucile e sparare a Berlusconi? Che devo fare? Chiamasse, dicesse a Castelli, chiamiamo Berlusconi, parliamoci di questa faccenda, anziché passare a una discussione a far parlare. Il telefono di Berlusconi, come lei sa... ce l'hanno tutti, guardi, chiami Laminetti, chiami. No, ecco appunto, no, volevo dirle... anche la Polanco, insomma, tanta gente. Anche la signora, come si chiama l'altro giorno, quella che abbiamo chiamato in diretta, Parenzo, come si chiama? La signora... Non la Polanco, la Maristel Polanco. No, la signora Michelle Conceição. Conceição. Vede, il telefono di Berlusconi, quello diretto, che adesso pare che sia diventato 334, da quello che ci ha detto l'altro giorno la signora Polanco, insomma, non è che ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno le persone a cui Berlusconi lo vuole dare. Sì, cioè, anche il cerchio magico di Berlusconi. Anche Castelli, credo, il cerchio magico di Berlusconi anche non è male. Castelli, lei quando deve sentire Berlusconi, non so quante volte l'abbia sentito negli ultimi due anni, cosa fa? Attraverso chi passa? Se mai ha avuto... La sua segreteria. Direttamente la sua segreteria, cioè non c'ha il telefonino diretto anche lei? Ma no, ma non... Vede com'è la vita però? Non c'è neanche bisogno, anzi non... Vede com'è la vita? Si chiama la segreteria, non frega niente a Castelli sentire Berlusconi. L'ho visto, l'ho frequentato. Beh, la vita è bizzarra però, ci sono delle persone che hanno il telefonino diretto... Il sottosegretario Castelli no, certo. Vabbè, però devo dire una cosa, io ho avuto anche giorni in cui... tempi in cui frequentavo Berlusconi abbastanza frequentemente, sì. Non l'ho mai visto con un telefonino in tasca, anche questa storia del telefono di Berlusconi, sì. Io non l'ho mai visto con un telefono in tasca, ho sempre visto segretari che arrivavano e dicevano presidente, dottore, che molti lo chiamano dottore, guarda che c'è al telefono. Vabbè, magari era qualcuno. Ma c'è anche Agnelli, girava senza portafoglio pure. No, però Castelli vuole dire, siccome no, voglio dire che non mi ha stupito quando ho sentito che c'era la brasiliana che ha chiamato direttamente. Berlusconi. Io non l'ho mai visto, non dico proprio mai, con un telefono in tasca. Vabbè, sa, però evidentemente hanno dei telefoni privati che dà solamente alle persone che vuole dare. Per carità, ognuno dà i telefoni a chi vuole. È una cosa sbagliata averlo o non averlo. Però. No, no, certo, certo. Senta, ma vogliamo tornare alla questione della cosiddetta invasione degli extracomunitari, degli immigrati, dei tunisini. Lei riconfermerebbe tutte le parole che ha detto a un giorno? Guardi, io mi sono rivisto poco tempo fa quello che ho dichiarato al giorno da pecora. Ho fatto un discorso di natura storica che riconfermo parola per parola, invito tutti ad andarselo a sentire. Perché bisogna sempre inquadrarlo all'interno di un giorno. Spero che non avvenga mai quel giorno, però ribadisco che adesso quindi tirerò fuori il solito macello che poi... No, io ho fatto un discorso molto complesso che sostanzialmente si richiamava, diciamo, io sono convinto, noi siamo più o meno come nell'epoca del decadimento dell'impero romano, no? Io penso che l'impero d'Occidente che nasce sostanzialmente con la scoperta dell'America si sviluppa nei secoli con Voltaire, con il colonialismo stia arrivando alla fine, no? E ci sono tantissime analogie con la caduta dell'impero romano. Io ho fatto un discorso di questo genere. Sì. Bene, la Repubblica ha detto: Castelli, dichiarami, tragliamo i profughi. Quindi questo per dire come i giornali. Però lei diceva: sì, siamo già in presenza di un'invasione. Cose. Siamo già in presenza di un'invasione, questo l'ha detto. No, no, no. No, ma ripeto, c'è su tutte su no, tutto, no, ma non lei l'ho ascoltato, l'ho ascoltato. Andarselo a vedere. Io però ho fatto questo ragionamento. Ha detto anche se questi qua, anche questi che già sono arrivati, se commettono delle violenze, se si ribellano, ha fatto anche un esempio ma questo l'ho detto una banalità totale, voglio dire, lei ha mai visto qualcuno che viene arrestato in cui il poliziotto dice: "Scusi, vorrebbe per favore accomodarsi alle patrie galere?" Normalmente lo Stato, come diceva Hobbes, cos'è che differenzia lo Stato da un qualsiasi altro ente? L'uso della forza anche. La legittimità dell'uso della forza. Sì. Lo Stato usa la propria forza in maniera, diciamo, proporzionale all'offesa che riceve. Quindi se io devo dare una contravvenzione in cui il cittadino paga, non c'è problema, non uso la gentilezza. Se il cittadino reagisce, normalmente avviene una colluttazione. Se il cittadino reagisce a manganellate e pietrate, normalmente lo Stato reagisce con le armi, a sua volta con manganellate e scudi e bombe, e bombe lacrimogene. Ma adesso se in che situazione spara, siamo? Normalmente il poliziotto risponde alla sparatoria, come è avvenuto, avvengono ogni anno purtroppo scontri a fuoco tra le forze dell'ordine e, in che fase e siamo? I criminali che sparano. Io semplicemente questo ho detto. Poi naturalmente essendoci in mezzo gli immigrati scatta il politicamente corretto, per cui tutti i nostri pavloviani, che in Italia sono milioni, reagiscono agitando la coda. No, figuriamoci, poi l'uso delle armi, la salivazione come nei esperimenti di Pavlov. E chi è che aumenta che ha aumentato soprattutto la salivazione? No, è venuto fuori lo scandalo, Castelli, spariamo agli immigrati. Ma quando è che si può usare la forza, secondo lei? In questa situazione si può già usare la forza oppure no? Ho spiegato, scusi. Sì. No, ho capito, però in che situazione siamo ad adesso? Ad esempio, ammettiamo che in Italia avvengano, anzi non è che ammettiamo, l'abbiamo letto anche oggi sui giornali, è stato dichiarato che molto probabilmente tra gli immigrati che sono arrivati sono degli infiltrati di Al-Qaeda. Sì. Allora, questi signori vengono qua a giocare a briscola o probabilmente organizzare cose che abbiamo già visto a Madrid, a Londra. Non è che li sappiamo quali sono. Non lo sappiamo. Dunque, che dobbiamo fare in questo caso? Le forze dell'ordine si preoccupano, gli investigatori si preoccupano, investigano, se trovano dei colpevoli li arrestano, se questi qua non hanno voglia di farsi arrestare e rispondono con la violenza, le forze dell'ordine applicano una forza commisurata alla violenza che i criminali pongono in essere. Senta, io ho sentito nei giorni scorsi... È stato un grande scandalo perché... Se si fosse parlato di mafia, naturalmente tutti giustamente sarebbero stati d'accordo, ma siccome c'è la parola immigrati, allora scatta immediatamente la reazione pavloviana. Perché nessuno, lei dice, poi immagini... No, perché il politicamente corretto permea le nostre menti. Se posso interpretare il Berlusconi pensiero, su cui creo un altro casino, qual è? Sulla scuola... Sì. Ci sono i miei addetti stampa che mi guardano molto preoccupati. No, non li faccia essere preoccupati, non ci succede nulla. È chiaro che queste cose qua si respirano in una certa cultura di sinistra in cui, ripeto, il politicamente corretto, che secondo me è nient'altro che guardare la realtà attraverso lenti ideologiche che la distorcono, poi crea questo tipo di cittadini che non vedono la realtà, ma vedono soltanto... Ma che c'entrava con la scuola e Berlusconi? Che... O vedono le ombre della caverna. Allora platoniana memoria. Non ho capito che cosa c'entra con Berlusconi e la scuola. Si è fermato sull'orlo dell'abisso. Perché Berlusconi, quando dice che nelle scuole pubbliche si insegna... Sì. Si insegnano, diciamo, ci sono troppi insegnanti di sinistra. Quindi ha ragione? Distorcono quello che è così l'educazione per i nostri figli. Credo che, almeno io la interpreto in questo modo, in troppe scuole ci sono troppi insegnanti che insegnano il politicamente corretto, che invece è un sistema per non guardare la realtà ma per vederla attraverso le idee ideologiche, per cui certe cose si possono vedere cosa bisognerebbe insegnare, allora altre non si possono vedere, non si possono descrivere. Facciamo il manuale secondo un attimo Castelli. Però abbiamo la pubblicità, un secondo. Eccoci, dobbiamo concludere con Castelli. Allora, Parenzo, a che punto sei tu? Che punto sono? Sono allo Stadio Olimpico, in mezzo al traffico. Ma io te lo chiedo così per sapere dove sei, mi preoccupo di dove vai, eccetera. Sei gentile. E si è sentita... Sei come una seconda moglie per me ormai. Beh, adesso non esageriamo, insomma. Senatore Castelli, abbiamo sentito nei giorni scorsi tuonare... far parlare di sé di nuovo il prosindaco di Treviso Gentilini. Ha detto la vera Lega deve essere quella di legionari, rivoluzionari, questa storia dei permessi di Maroni che non va bene, ci vogliono i blocchi navali, ci vuole una Lega insomma che torni alle origini. Lei è d'accordo? Ma Gentilini è una persona che a cui tutti quanti noi vogliamo bene, naturalmente lui getta il cuore oltre l'ostacolo, parla con i sentimenti. Chi deve fare il ministro interno evidentemente ha ben altre responsabilità, ha ben altre difficoltà da affrontare. Ma i blocchi navali si possono fare? Ragionare molto con la testa, Ma a me sembra che la politica che Maroni abbia messo in campo stia cominciando a dare i frutti, sostanzialmente è basata su tre aspetti fondamentali. Uno, l'Europa deve farsi carico di questa situazione, perché ricordo che questi tunisini non vengono in Italia, sì, ma vengono in Europa, tant'è vero che poi vogliono andare immediatamente. Vabbè, adesso la Francia sta Germania, adesso la Francia sta, e mi pare che su questo tema stia raggiungendo i risultati. Secondo, si lancia il messaggio che non tutti possono venire, perché se no non siamo più uno Stato, se uno Stato deve controllare il proprio territorio evidentemente accetta le persone a determinate condizioni, cioè i profughi sì, i clandestini no, e quindi il messaggio è stato lanciato attraverso che cosa? Attraverso il rimpatrio forzoso. Io ricordo che oltre 300 di queste persone sono state già rimandate indietro. Ecco, però il terzo, sì, poi finisco, sì, è l'accordo con i paesi di partenza. È stato questo lo schema che ha funzionato con la Libia, sta cominciando a funzionare con la Tunisia. Quindi, dunque, l'invasione per il momento non c'è. L'invasione per il momento non c'è. Dobbiamo però, si vis pace in parabellum, ancora oggi ci sono gli osservatori che ci dicono che di là del mare ci sono centinaia di migliaia di persone, se non milioni, che aspirano a venire qui. Allora, i casi sono due, ma io trovo legittime tutte e due le posizioni. Una posizione legittima che di molta sinistra è politicamente corretta, quella che dice il mondo ormai è solo una grande famiglia, quindi ognuno può andare dove vuole. Beh, insomma, questa è l'estrema sinistra. No, noi pensiamo diversamente, noi pensiamo che un popolo, uno Stato sia tale se controlla i propri. E dunque i blocchi navali che propone Gentilini sono corretti, si possono fare o no? I blocchi navali, a mio parere, sono, se sono fatti dal paese di ricezione, cioè dall'Italia, sono tecnicamente impossibili, perché sono impossibili da effettuare se non violando leggi del mare, quindi sono tecnicamente impossibili. C'è un sogno, è solo un sogno. All'uscita dei porti di partenza, però questi vanno fatti evidentemente solo con l'accordo dei paesi di partenza, perché mica possiamo andare in vario. Dico solo una cosa che farà imbestialire Castelli, che il ministro... Sento male Parenzo. Parenzo, dimmi. No, dico una roba che la farà imbestialire Castelli, cioè il ministro Maroni sta facendo esattamente cose di buonsenso che qualsiasi governo avrebbe messo in campo, perché il permesso temporaneo di sei mesi è una sorta di sanatoria, dici tu? È una sanatoria neanche troppo nascosta, giusta e corretta per gestire l'emergenza. Quindi si può però la vostra base non l'accetta. Come mai non l'accetta? Lei non mi ha fatto assolutamente imbestialire, ma lei è anche ingenuo. Si domandi grazie, perché è stato rilasciato questo permesso temporaneo di sei mesi. Per permettergli, dunque ha fregato Maroni, voleva fregare la Francia o la Germania. Non è che lo vuol fregare, però è chiaro che noi rispondiamo con le armi che abbiamo. Voglio dire, se l'Europa è sorda alle nostre esigenze, che ripeto, sono, perché l'Europa... Intanto noi abbiamo ma questo è curioso, cioè noi abbiamo fatto in modo con questo. Quindi è stato un tecnicismo che ci ha consentito di affrontare questa emergenza e non farci carico di tutte queste persone. Un trucco. Quindi non mi fa affatto. Ma che trucco? No, ma un trucco. Assolutamente legittima, prevista da Schengen. Certo, non sto dicendo. È stato fatto per questo motivo, tant'è vero che mi pare che questa cosa stia assolutamente passando. Cioè, alla fine, diciamo la verità, ma io Castello. Vorrei rispondere a Parenzo, sì. Guardi che la differenza tra i vari governi, differenza fondamentale, e se non uno si bloccati. Dà da fare per bloccare questa indiscriminata immigrazione, oppure se lancia il segnale venite qua che tanto qualcosa faremo. Ma non è così, quando lei ci dice tra noi e i governi di sinistra. Parenzo, che dici? Avete fatto la stessa politica che avrebbe fatto qualsiasi governo di sinistra, o io dico questa ragionevole. Questa è la sua affermazione, ma io le dico che storicamente non c'è nulla di leghista, fatto quello ben che altra fatto. Politica. Avete fatto una cosa di buon senso, ma ve ne hanno atto, fatto ben vede. Altra politica. Io le ricordo che gli unici a aver fatto l'accordo con la Libia che poi ha funzionato siamo stati noi. Parenzo dice che non c'è né pro di primo. Ho capito, ma non è il Führer de Ball, però. Non è il Führer de Ball. Bravo. Però non è il Führer de Ball, questo qua. No, è dentro le Ball per sei mesi. Dentro le Ball per sei mesi. Führer de Ball, sì, scusi, tradotto in azioni governative, Führer de Ball. I 20.000 che avevamo li stiamo mandando fuori in Francia e in Germania attraverso il permesso temporaneo di soggiorno. Sì. Gli altri li stiamo bloccando, li stiamo rimandando indietro, stiamo cercando di fermare la Tunisia, quindi il Führer de Ball di Bossi, che è il segnale, diciamo, così. Ma perché non fate dei bei manifesti elettorali? Poche parole, viene tradotto da Maroni in azioni governative. Perché non fate dei bei manifesti? Perché non fate dei bei manifesti? Hanno fatto il permesso di sei mesi. Che Führer de Ball? Hanno fatto il permesso. Vabbè, di ho sei capito. Mesi. Vabbè, se non vuol capire perché l'abbiamo dato, il problema suo. Parenzo, calmati un attimo. Castelli, scusi un attimo, ma allora perché non fate dei bei manifesti elettorali? Führer de Ball. Come? Perché le avete fatti già i manifesti elettorali con Führer de Ball? Quella sarebbe una. No? Elettorale decide la Lega, scusate, non è che decidete voi. No, beh, ho capito. No, non li decido io. Do un'idea, butto lì un'idea. Fate i manifesti con Führer. La valuteremo e vedremo. C'ha ragione. Su questo Castelli c'ha ragione. Non è che vabbè, la linea no, da Cruciani o da Parenzo. Ma no, per carità, però magari, insomma, capito. No, io qui sto con Castelli, c'ha ragione. Ma ho capito, adesso non è che mi volete mettere in minoranza. Sto dicendo, qualcuno ci aveva detto, non è che lo dico così perché me lo sono inventato, qualcuno ci aveva detto. Certo. Nella Lega stanno pensando a fare i bei manifesti elettorali con scritto Führer de Ball. Come si dice, no, tra l'altro? Il rischio è che venga equivocato e che pensino a Berlusconi. Il rischio è quello che se vengono fuori questi manifesti. Però parlando in tre, scusate, ma. Che dicevi, Parenzo? Una tregua, non ho capito cosa avete detto. Che dici, Parenzo? Siccome c'è un po' di maretta con Berlusconi, e allora il rischio è quello maretta. Che se loro con la Lega noi la maretta con Berlusconi dice Parenzo, io capisco che voi dovete guadagnarvi la pagnotta quindi vi inventate queste cose, c'è il rischio, dice Parenzo, che il Führer de Ball si è rivolto a Berlusconi. Vabbè. Battuta di Parenzo, allora, facciamo. Purtroppo sento Parenzo malissimo e non riesco a comprendere. Solito problema nostro, non suo, per carità. Va bene, allora concludiamo solamente con i tre principali nomi del cerchio magico che prima ci ha evocato il senatore Castelli. Castelli, allora, i tre principali, a parte Renzo Bossi, che è di diritto nel cerchio magico. In ogni partito esiste un cerchio magico, che sono poi i dirigenti. Basta che vi andate a vedere, come diceva correttamente lei, l'organigramma, e capite subito. C'è Reguzzoni nel cerchio magico. Ma scusi, ripeto, non mi faccia dire nomi, che poi stanno già uscendo le agenzie delle cose che stiamo dicendo, poi siccome i giornalisti sono. Qui siamo tutti uomini di mondo. L'opera di Verdi. Siamo tutti uomini di mondo. Allora non mi faccia dire nomi. In ogni partito c'è un organigramma, basta vedere chi sono i vertici dei partiti. Volete chiamarlo anziché dirigenza, volete chiamarlo cerchio magico? Clan, si può chiamare clan. Chiamatelo cerchio magico, ma. Sono i dirigenti. Lei ne fa parte? Lei da vedere, ci sono ministri, capigruppo in Parlamento e in Senato. Vabbè, non è troppo allargato. Non è troppo largo questo. Lei non ne fa parte, però. Come? Lei non ne fa parte. Ma io non lo so. Io faccio il viceministro, quindi sono un po' sotto i ministri, quindi non dipende da dove vogliamo mettere i confini della classe dirigente. Io prima o poi qualcuno che dice apertamente del cerchio magico fanno parte queste persone qua, 1, 2, 3, 4, lo devo trovare. Vabbè, comunque questa qualcuno che dice del cerchio magico fanno parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più o meno lo voglio trovare. C'è l'iscrizione al cerchio magico come la bocciofila della Lega. Appunto, però c'è iscritto numero uno al cerchio, se ora io dico che faccio parte della Lega con la tessera, non c'è. Però abbiamo fatto un passo in più. Magico, abbiamo fatto un passo in più questa sera, caro Parenzo. Abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo riconosciuto l'esistenza. Abbiamo almeno conosciuto qualcuno. Sì, vabbè, esiste una cosa che si può chiamare cerco magico o clan o cose di questo tipo. Ma che clan? Scusi, ci sono i dirigenti della Lega, c'è un consiglio federale. Ci sono dei nomi, ci sono dei ministri, dei presidenti di gruppi Camera e Senato, dei sindaci di città importanti. Vabbè, adesso non è così. Non è così largo. Ma perché c'è questa paura? Non è mica Abu Ghraib a mettere questa roba qui. Cioè, perché c'è questa paura a riconoscere che esista una cerchia di fedelissimi attorno al capo, attorno a Bossi? Perché? Ma perché non è così semplice da individuare, scusi, fedelissimo cosa vuol dire? Io sicuramente sono un fedelissimo, e dall'87 sto vicino a Bossi. No, fedelissimo. Quindi, significa fedelissimo, questo ascoltato. Non mi autorizza a dire che io faccio parte di un qualche cerchio. No, infatti lei non ne fa parte, secondo le indiscrezioni, lei non ne fa parte. Non ne faccio parte, non, non so neanche chi ne fa parte, se io non ne faccio parte. Okay, per esempio, la signora Rosi Mauro ne fa parte o no? Ma che ne so, però risulta che esista un cerchio magico. Risulta che c'è una classe dirigente della Lega. Va bene, grazie senatore Castelli. Buona serata. Grazie, buona Pasqua anche a lei. 20:28. Dove andiamo, caro Parenzo, a sentire la borsa? E poi ascoltatori fino alla fine, direi. Forse con un'incursione ancora, però ascoltatori fino alla fine. Eccoci qui, 20:32. Caro Parenzo, 800-24-00-24. Questa è la Zanzara, in una serata ricca di ascoltatori, naturalmente, che fra poco manderemo in onda fino alle 21. Tu sei in viaggio verso Exit, ma anche di ospiti con... cose clamorose, clamorose che sono uscite fuori, direi, da parte soprattutto dell'onorevole Santanchela. Guarda, ha detto voterei per Lassini, addirittura nel nome di Tortora. Quando tu gli hai osservato, Tortora ha detto sì, proprio nel nome di Tortora voterei Lassini. Che vergogna. Come Tortora, sostanzialmente, capito? Accostare il nome di Tortora alla indignati, dai, indignati, su, indignati, dai. Ma sì, perché in questo perché bisogna perdere la capacità di indignarsi e di alzare la testa. Infatti ti sto invitando a indignarti, no? Stai incitando all'indignazione, alle volte è utile, sai. No, su Tortora, dato che sei anche amico di Gaia Tortora, allora indignati. Sì, ma non per quello, lo dico perché la storia di Enzo Tortora, ma di tanti. Perché vuoi rinnegare la tua amicizia con la signora Gaia Tortora, no? Non c'entra questo, c'entra la storia politica e umana. Sto scherzando, naturalmente, sì. Sì, no, ovvio, ma c'entra la storia politica e umana di quest'uomo. Potrei parlare anche del grande Enzo Carra, ad esempio, e di quando fu portato la famosa foto di Carra fotografato con gli schiavettoni, con le manette. Avete mai visto un solo rigo, un solo urlo di Enzo Carra contro questi magistrati? Eppure ne avrebbe ben donde, no? Di beh, nessuno si sarebbe indignato se avesse protestato in maniera vigorosa, come peraltro ha fatto. Ma certo, hanno usato un altro strumento. Non ha mai messo i manifesti, su questo non c'è dubbio. Mai messo i manifesti, mai attaccato la magistratura in quanto tale. Cioè, c'è una differenza. Vanno ricordate queste storie diverse. C'è Lassini, che è diventato tristemente famoso. Lassini, dai, su. Ho capito, adesso perché attacchi Lassini che non c'è? Cosa c'entra? No, Lassini? Ma perché l'ha detto la Santanchè, non io l'ho detto io. Ma perché è tutto triste. È triste la storia, è triste l'epilogo di questa storia. L'epilogo di un governo, di una maggioranza che si sfila apparentemente da Lassini, salvo poi dire no, beh, però... Beh, alza la voce. Io però lo voterei, come dice la Santanchè, ma su, dai. Dai. Marco da Napoli. Dai. Marco da Napoli, attenzione, però volevo risentire il fascio comunista, Il fascio comunista, la voglio risentire a tutti i costi. Il fascio grande comunista. Pennacchi, bravo. Ma che grande, quale grande? No? Follia allo stato puro. Bravissimo Pennacchi. Sentiamo, non su noi siamo sopra. Cita Dante, voi giornalisti non capite, sentirete. Che a vizio di lussuria fussi rotta, che libido fellicito in sua legge per torre il biasmo in cui era condotta. Io mi rendo conto voi giornalisti incapite in cazzo, non l'avete capito quello che dico. Non l'avete capito? Questo è uno che si chiama Dante Alighieri, andatevelo a vedere, il quinto dell'inferno. Ascoltatore che dice: si faccia dire da Parenzo chi ha pagato per Tortora. Nessuno, questo è anche il punto, non è solamente la vicenda Tortora. Vero, chi ha pagato? Ma c'è nessuno. Chi ha diritto a dirlo, c'è chi ha diritto a dirlo e chi no, invece. È vero, ha ragione. Ancora Pennacchi. E non può essere per trovare mia figlia io devo andare al singolo politico per piacere, fammi questo. Ma che è piacere? Piacere un cazzo, è un diritto. Sono diritti. Questa invece, questa che stanno costruendo oggi, è una società dei servi. Non può essere, questo è il governo dei semicamide. Ho capito, ma dai, su. Bellissimo. È come Grillo. 100.000 Pennacchi, sindaco. A parte che non è candidato a sindaco, è capolista. So, è capolista. Pennacchi, premier. Capolista premier della candidatura a sindaco del Finiano Cosignani. Era accompagnato dalla premiata ditta Bocchino Granata. Hai capito? Sì, hai capito. Era accompagnato dalla premiata ditta Bocchino Granata. Ho capito. Bocchino ha accompagnato Pennacchi, non un uomo della Sacra Corona Unita. È Pennacchi. Cioè, ho capito. Come avesse... cioè, Pennacchi, vincitore del premio Strega, intellettuale italiano, operaio, scrittore. E allora chi se ne frega? Una intelligenza di questo paese. Sì. Ce ne vorrebbero tanti, perché è una storia di l'ascensore sociale. Ho capito, ma che me ne importa? A me interessa quello che dice. Quello che ho sentito sono delle cose assurde, delle follie, delle cose ridicole. È uno sparigliatore, e viva gli sparigliatori. Ma che c'entra? Ma scusa, ma lascia perdere. Può anche darsi che sia, come dire, abbia un carattere da sparigliatore, quello che vuoi, non lo so. Io sto alle cose che dice, e non ce n'è una che abbia i caratteri della come dire, della ragionevolezza. Non ce n'è una, sono una serie di improperi alla Beppe Grillo, diciamo la verità, una serie di improperi alla Beppe Grillo. Io non paragonerei Pennacchi come Beppe Strega. Grillo, sì, io Pennacchi come Grillo, il vincitore dello Strega a Beppe Grillo. Ma che c'entra? Non è che il vincitore dello Strega deve essere forse una persona intelligente, può essere uno intelligente, perché ogni tanto dice delle stupidaggini, abbi pazienza. D'accordo, ma in questo caso va valutato per quello che dice, per quello che ha scritto, ed è un grande intellettuale italiano. Ma non italiano, me ne importa quello che ha scritto. Tu condividi queste cose, non puoi le condividere. A te ti piace il tono, ti piace Pennacchi perché parla in questo modo e... Mi diverte la provocazione. Ma quale provocazione? Non c'è nessuna provocazione qui. Intelligente, anche quella Berlusconi Mussolini avrebbe mandato al confino. Vabbè, intelligente anche questa, sentiamo. Ma è una battuta, quella è una battuta. Battuta vabbè. Ma comunque tu difendi Pennacchi, ho capito. Sì, certo, non è un reato difendere Pennacchi, no, è evidente che difendo Pennacchi. No. Certo, difendo il vincitore dello Strega, sto con Pennacchi. Denunciami alla procura. A quei tempi, ma da mo' che Berlusconi stava al confino, ma secondo voi gli davano 3 televisioni? Ma sai le bastonate ai tempi che gli dava quello là? Lui è mussoliniano come Lele Mora, Pennacchi come Lele Mora. Capito? Cosa ha detto? È mussoliniano come Lele Mora, da questo punto di vista Pennacchi come Lele Mora. Ma ambulanza per Cruciani, subito, chiamate l'ambulanza. È mussoliniano come Lele Mora, c'è poco da fare, sì. Pennacchi. Pennacchi come Lele Mora perché? Perché è mussoliniano come Lele Mora, esalta il fascismo come Lele Mora. Ma non esalta nessun fascismo. Come no? Come no? Adesso voglio dire, tu hai la provocazione intellettuale, intelligente, fresca. Lele Mora non c'entra nulla. A parte che Lele Mora non sa nulla di fascismo o di Mussolini, sa semplicemente per sentito dire. Ma non voglio neanche mettermi su questo piano a discutere di questa roba. Cioè, chiudo la trasmissione. Basta, mandiamo la bolla. Chiudiamo anticipatamente. No, Marco. Non sto al paragone. Non sto, è una bestemmia. Effettivamente un po' ardito come paragone. Marco da Napoli, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Complimenti vissimi della trasmissione, me l'ha servita su un piatto d'argento. Loro Pennacchi come Beppe Grillo. Volevo capire perché il suo accanimento contro Beppe Grillo. Ma quale accanimento? Veramente non è che lo citiamo sempre. L'ho citato. No, in realtà io ogni volta che lei fa qualche similitudine con Beppe Grillo, noto una certa da parte sua. Perché questo? Ma guardi, caro signor Marco, non è il caso che io le elenchi tutte le stupidaggini sesquipedali che ho sentito negli ultimi tempi da Beppe Grillo. Sto salutando Boccia, se ti interessa. Ah, il signor Boccia! Boccia è qui. Ah, c'è anche la signora Di Girolamo nella stessa macchina. Come mai? Perfetto, non è vero. Te lo passo. Passamelo un attimo, passamelo. Sì, eccomi. Allora, come va? Buonasera, onorevole Boccia. Pronto? Ecco, ora sento. Come andiamo? Pronto? Come andiamo? Bene, ma siamo al telefono o in radio? No, siamo in radio. Sono le 20. No, giusto per. Lei dice giusto per darci una regolata, no? Sì, perché ogni tanto ci sfugge la frizione quando siamo in radio. A voglia, questa sera poi la Santanchè è sfuggita la frizione, stasera qui da noi. Che ha combinato la Santanchè? Lo sai che cosa ha detto? Io voterei Lassini come Enzo Tortora. Vabbè, ma qui siamo. Voterei Lassini. Non c'è niente a fare. Questi sono gli effetti di quel master preso allora. Ah, lei dice quel master, Sì. Master, famoso master. Quel master. Secondo me, se avesse capito che titolo di studio stava conseguendo, forse non sarebbe stata così. Comunque non era un master quello poi, tanto per essere chiari. Non era un master. Non si può dire che è un master. Dovrebbe toglierlo dal curriculum o no, secondo lei? Stiamo parlando con l'onorevole Boccia del Partito Democratico, tanto per chiarire, sennò sembra che siamo tra amici qua. Ma non l'aveva già tolto? Cosa? No, non l'ha, dal curriculum non l'ha tolto. Mannaggia. Non l'ha tolto. Vabbè. Comunque so che nei giorni scorsi lei ci ha tradito e è andato da... No, sto scherzando, naturalmente, a fare una cosa, una specie di carambata, anzi no, carambata no, perché non vi siete ritrovati, una sorta di dichiarazione quasi, non definitiva, ma quasi definitiva insieme alla signora De Girolamo, dei nostri amici di Un Giorno da Pecora, Pronto, non sento. Non sente benissimo. Mi ripassi Parenzo, presto. Non sento. Mi ripassi Parenzo. Vi sposate o no? A presto. Vi sposate presto, o no? Sì. Interferenza. C'è interferenza. Non è che può parlare con gli altri e con noi non parla, però. No. Quando lei mi inviterà, sto scherzando. Da lei e ci faremo una bella chiacchierata. Sto scherzando, però, naturalmente. Volevo salutare. Soli. Io, lei e il microfono. Ah, ecco, questo sì. Grazie. Parenzo, dove sei? A presto. Grazie. Eccomi, ero intimo perché avevo il microfono della. Sì. Le cuffiette ed ero vicino a lui. Sì, ma perché già sei pronto per la diretta? No, siamo arrivati adesso qui in questi bellissimi studi a prima. Allora, eravamo con Marco da Napoli, dunque, però non farmi perdere il filo con queste due interferenze, onorevole Boccia, adesso poi chissà chi mi presenti al volo. Non ti passo nessun altro. No, beh, insomma, dipende naturalmente. Dipende. Allora, Marco, lei diceva perché critico sempre Grillo? Ma qui non è che critico sempre Grillo. Diciamo che non sono d'accordo con il tipo di comunicazione e le cose che dice Grillo. Non sempre, naturalmente. Insomma, raramente sono d'accordo, anzi, forse quasi mai, nell'1% dei casi, forse anche meno. Per esempio, nella polemica su De Magistris sono d'accordo con Grillo per quello che riguarda la candidatura a Napoli, che prima aveva detto che non si sarebbe mai candidato, che adesso sta utilizzando le stesse cose per cui fa delle campagne, illegittimo impedimento, eccetera. Certo, lo dico con un altro spirito io, non con lo spirito di Grillo, però in quel caso ero d'accordo. Io penso che io sono d'accordo con lei sul fatto che il modo di esprimersi a volte può essere provocatorio. Però i contenuti sono validi, io lo seguo abbastanza spesso sul blog, è una persona informata e non credo che dica tante fesserie. No, ma le fesserie, io non ho detto fesserie, ho detto stupidaggini, chiamiamole pure fesserie, d'accordo? È uguale. No, ho capito, però il punto è un altro, dipende cosa si dice. Se uno dice che i partiti sono morti, bisogna abolire i partiti e farne, cioè, io dico che è una fesseria. Se uno dice... Certo. Che bisogna azzerare la produzione di macchine in tutto il mondo perché bisogna in una sorta di delirio da stato socialista e bisogna fare solamente le autostrade informatiche, dico che è una cosa senza senso, per cui bisogna vedere. La maggior parte delle cose a me sembrano così, delle sparate. Chiaro che questi sono atteggiamenti provocatori, ma ecco, per esempio, quando lui sostiene che ci sono nuovi parlamentari, cose ridette e stradette farebbero bene a tutti. O le due legislature, tutto, no, sono cose realistiche, facilmente fattibili, e che però alla fine, ecco, anche questo poi viene messo il calderone del suo modo di esprimersi, e quindi anche questi contenuti validi poi diventano, ecco, stupidaggini. Ma guardi, io per esempio sulla roba del Parlamento pulito, francamente, uno può condividere in generale l'idea che ci sia un ricambio, non è che può venire per legge, come dice, come vuole fare Grillo, al massimo due legislature, perché questa mi sembra francamente una cosa assurda, improponibile. Poi che ci debba essere un maggiore ricambio, che comunque c'è stato negli ultimi anni seguendo i dati, questo sì. Abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. C'è anche Sandro da Milano, Renzo da Modena, Filippo da Genova, da se non sbaglio da Torino. Eccoci, Filippo da Genova. Buonasera a tutti, buonasera. Dica. Allora, vorrei intervenire in merito al caso Lassini, perché sì. Secondo me la domanda che è stata posta all'onorevole Santanchè non è molto chiara, non è molto, insomma, l'ho trovata un po' fuori luogo, ovvero chiedergli, lei lo voterebbe? Ma qua parliamo di una persona che ha sicuramente fatto un errore, una boiata pazzesca, però... Io penso che non debba essere per questo cancellato tutto il suo trascorso politico, che peraltro non conosco io, ma per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere uno dei migliori esponenti del Partito delle Libertà. E chi lo vuole cancellare? Italiano. Scusi, il percorso politico, non ho capito. No, la domanda era faziosa, secondo me. Ma non è una domanda faziosa, siccome la signora Santanchè vota a Milano, da quello che mi risulta, anzi sicuramente vota a Milano, ed essendo un'elettrice evidentemente del PDL, ho chiesto alla signora Santanchè se voterebbe la Siria, se ha intenzione di votare la Siria, e lei ha detto sì, lo voterei. Non si è neanche sottratta, mi pare. No? Che lei... Non mi pare particolarmente scandalosa questa domanda. No, lei dicendogli sì, però ha inteso, sì, nonostante la pubblicazione dei manifesti sulle Brigate Rosse, ma sono sicuro che l'onorevole Santanchè conosce un sacco di cose che né io né voi magari conosciamo, e quindi l'ha detto con totale libertà, ma non necessariamente. Certo, con totale libertà, questo lo spero che l'abbia detto. Solo ha puntato il fucile alla Ma non ho capito, ma guardi che secondo me votare la Siria non è uno scandalo, Cioè, lei pensa che io dica che è uno scandalo votare la Siria? No, ognuno fa quello che vuole, la Siria ha fatto una cosa, si è assunto la responsabilità di quello che ha fatto, si sottopone agli elettori, punto. Cioè, cioè non vedo qual è il problema. Assolutamente. Il problema è politico all'interno del PDL, perché da una parte Berlusconi voleva mantenerlo listo, comunque voleva sostenere la Moratti, ha detto io lui, e addirittura ha detto io non ho nessun bisogno di fare il sindaco di Milano, e dunque alla fine Berlusconi ha dovuto cedere. Questo è il punto fondamentale politico di queste ore. Questo è assolutamente vero, non voglio dire il contrario, però ripeto, mi sembra un po' come la questione del nucleare, chiedere agli italiani se vorrebbero il nucleare dopo la tragedia di Fukushima. Qua mi sembra una cosa tutto sommato simile, cioè voglio dire, lui ha fatto un errore, l'ha riconosciuto, poi anche se volete entrare nel merito, un ascoltatore prima aveva detto che potrebbe ricevere una barcata di voti solo per questo, perché ormai in Italia funziona così da diverso tempo. No, veramente l'ha detto anche la Santa. Anche. Comunque, grazie Filippo. Lorenzo da Modena, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Il paragone Mussolini-Berlusconi non è una provocazione intelligente, e mi dispiace che Parenzo, che pur ogni tanto è anche arguto, l'abbia girata come un paragone, una provocazione intelligente. Fino a prova contraria, pur non essendo assolutamente un simpatizzante di Berlusconi e della sua banda, fino a prova contraria. Banda addirittura. Fino a prova contraria, Berlusconi non ha fatto leggi razziali, non ha contribuito a spedire nei campi di concentramento persone, non ci ha portati in guerra. Allora definire lo scrittore un intellettuale che fa provocazioni intelligenti è offensivo nei confronti delle persone che sono morte sotto il fascismo. Che provocazione intelligente! No, ma Lorenzo, con me sfonda una porta aperta. No, lo so, ma non è possibile. No, Parenzo si riferiva. Non mi giri la cosa, giro bene, Parenzo, perché lei può raccontare quello che vuole. No, ma io non dicevo, si può dire la mia sensibilità rispetto un attimo, Lorenzo, concluda. No, era solo questa, non si può dire che Berlusconi sia uguale a Mussolini. Cioè, no, non lo penso minimamente minimamente devi attaccare Pennacchi su questo, però non puoi considerare, cioè non puoi considerare Pennacchi un intellettuale naif, perché si presenta come capolista di Futura Libertà, abbi pazienza, a Latina, questo è il punto. Perché Pennacchi finché... è Pennacchi. Ma ho capito, ma si presenta come capolista di Futura Libertà, è diversa la cosa, scusa, se l'avesse detto... così, uno scrittore che vincitore del premio Strega, che va a ospite una trasmissione, oppure da casa sua dice Berlusconi è come Mussolini, è addirittura offensivo per il Duce, allora va bene. Ma siccome si presenta come capolista di Futura Libertà, appoggiato da Bocchino, Granata e tutti i dirigenti futuristi, beh, la cosa cambia, questo la è il punto. La vostra polemica ci sta perfettamente, e perché tu hai un'idea di Pennacchi, un'idea poetica, un'idea, un'idea esatto, che non corrisponde però ormai alla realtà, perché quando poi le persone si scoprono e devono confrontarsi con le cose reali, con la politica quotidiana, poi esce fuori quello che esce fuori. Questa è la realtà dei fatti. No, dico che al di là delle pruderie di questa battuta, che forse sì, è infelice, ma va comunque contestualizzata, è evidente, non l'ho mai pensato. Ancora mi sembra grezzo come politico, questo ti voglio dire, mi sembra molto grezzo, parte male. Ma dare un contributo. Ma che contributo? Ma perché uno scrittore che... pensa tra l'altro queste cose della politica, dell'agire politico, perché non è solo la questione di Berlusconi e di Mussolini, ha detto anche delle cose assurde, si sciolgano i partiti. Ma perché la Minetti? Ma la Minetti non parla, la Minetti non parla. Se facesse una conferenza stampa in cui dice delle cose, la potremmo attaccare. Siccome non parla, sta zitta. Che vuoi che ti dico? Le cifre ho capito, ma cosa, perché devi fare il benaltrista? Stiamo parlando di Pennacchi, molte volte abbiamo detto che la candidatura della Minetti è uno scandalo. Più di questo, che cosa devo dire? Certo, ma lì infatti ci saranno le elezioni con le preferenze, peraltro, quindi vedremo se Pennacchi... Ma certo, va consenso, benissimo, va benissimo, quello che vuoi, non ci sono problemi, però ti ripeto, Pennacchi è quello che è. Cioè, certo, ci mancherebbe, ovvio che è quello che è Pennacchi. No, è quello che è, l'hanno candidato per questo, perché è un personaggio, certo, eclettico. Dopodiché lo facessero stare zitto, non sarà facile, perché... Insomma. Ma secondo te lo candidano per farlo stare zitto? Lo candidano proprio perché è un personaggio, no? Se no, allora, non avrebbero... Allora, io siccome è capolista di Futura Libertà ha detto quelle cose, io voglio vedere la reazione che possono avere altri dirigenti di Futura Libertà di fronte a Pennacchi. Perché Pennacchi certo, è il dirigente di Futura, è il capolista di Futura Libertà a Latina. Il capolista di Futura Libertà a Latina, questo è il punto. I dirigenti moderati di Futura Libertà, i dirigenti moderati di Futura Libertà sono d'accordo con questa cosa, sì o no? Oppure ha deciso tutto come al solito l'onorevole Bocchino? Che è comunque il numero due del partito, non è un primo signore che passa a dice chi è, ma Bocchino è il numero due del partito. Quindi. Caro Lorenzo, la ringrazio. Buonasera. La ringrazio. Dada da Torino, buonasera. Signor Dada, poi Sandro da Milano, Igor da Prato. Dada, chi è che manda a quel paese qualcuno? Dada? Vabbè, Sandro da Milano. Pronto? Dica. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera, dica. Buonasera a tutti e due. Buonasera Farenzo, soprattutto perché è simpaticissimo. Sì, dica. Allora, io sono contento di ascoltare la vostra trasmissione perché ero convinto assolutamente che avrebbe telefonato qualcuno che avrebbe avuto il coraggio di difendere i manifesti sulle BR. I manifesti esposti a Milano, ovviamente mi riferisco. Sono contento perché questa gente, con la stessa coerenza con la quale dice che in passato all'interno delle, in passato quelli che oggi sono all'interno delle procure hanno aderito o quantomeno supportato le BR, dovrebbero allo stesso tempo dire che in Parlamento c'è gente, per esempio, che ha aderito alla P2. Allora, non mi sembra che la stessa. Scusi, gente, Sandro, adesso io non, questi paragoni non sono assurdi, bisognerebbe dire questo piuttosto. Assurdi, mi scusi. Bisognerebbe dire questo piuttosto che l'altro, il tipo di ragionamento. Restiamo alla cosa della P2. Scusi, dov'è lo scandalo che uno è stato iscritto alla P2? Non è che tutti quelli iscritti alla P2 sono tutti delinquenti. No, però sicuramente. E allora qual è il punto? Sicuramente la P2 ha con certezza. Le posso fare un disegno eversivo dello Stato italiano. Guardi. Ha dato con sentenza definitiva alla magistratura. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra nulla, c'entra? Sandro, ci sono persone che sono state iscritte alla P2, uno fra tutti Maurizio Costanzo e tanti altri, che non perseguivano nessun disegno eversivo. No, stavano lì e prendevano. Allora, secondo lei Costanzo perseguiva un disegno eversivo? No, secondo me tutti coloro che oggi dicono che chi ha scritto che in procura ci sono dei fiancheggiatori delle BR e lo sostengono devono con la stessa coerenza riconoscere che in Parlamento ci sono dei soggetti che hanno aderito alla loggia P2 che aveva ufficialmente un disegno eversivo. Non capisco il passaggio dai fiancheggiatori della magistratura del BR alla P2. Vabbè, si parla di accuse di eversione all'interno di istituzioni dello Stato italiano, va bene? Quando invece all'interno di istituzioni dello Stato italiano ci sono con certezza soggetti che hanno aderito ad organizzazioni che. Ma anche il Presidente del Consiglio era iscritto alla P2, come lei sa. Questo l'ha detto lei, quindi sta dicendo che il Presidente del Consiglio è un eversore? No, lei lo sta dicendo, io non lo dico. No, non lo dico, seguendo il suo ragionamento, non seguendo il mio ragionamento. Il mio ragionamento io le dico è un eversore. Berlusconi è un eversore perché sta iscritto alla P2. Guardi che non è un'idea così peregrina, cioè nel senso lo sostengono molti. Difendono i manifesti di Lassini, sostenendo che effettivamente i magistrati che oggi giudicano i politici italiani hanno in passato aderito a programmi eversivi. Ma questo lo sosteneva un ascoltatore, guardi, non lo sostiene nessuno, per fortuna. Ma infatti io non me la prendo con lei, me la sto prendendo. Per fortuna non lo sostiene nessuno. Delle tesi fuori dal mondo, senza rendersi conto che con la stessa coerenza dovrebbe poi avallare quello che dice Di Pietro. Va bene, ho capito. Grazie Sandro. Igor da Prato, buonasera. Buonasera entrambi. Guardi, mi ricollegavo al discorso che aveva fatto Castelli, dicendo che lui è stato eletto dal popolo. Ora io però faccio una domanda. Uno come Scilipoti, che è stato eletto dal popolo. Per una sera non avevamo parlato, adesso lei è proprio in conclusione, ultimo intervento. Uno come Scilipoti, che è stato eletto dal popolo. Ma è stato eletto dal popolo? Cioè ora è eletto dal popolo? No, però scusi, torniamo al solito posto. Non è alla solita questione. Tutti vengono eletti in qualche modo, poi le leggi elettorali possono essere brutte, cattive, buone, belle, straordinarie, meravigliose, tutti sono eletti in qualche modo, abbia pazienza, non si può non dire una cosa di questo tipo. Poi, ripeto, una cosa sono le elezioni, la scheda, l'urna, una cosa è la legge elettorale. Ma devo chiudere, David, buona trasmissione, buona puntata. Grazie, ci sentiamo domani con la Zanzara, domani. Chiudiamo qui, 18:30, a domani! La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa... Non mi preoccupare.